auspico che i comuni mettano in campo le misure che noi oggi con l'associazione dei comuni e con le regioni abbiamo condiviso. Quali sono queste manovre? Sono l'abbassamento della temperatura di 2 gradi negli edifici pubblici e privati, la limitazione della velocità di circolazione nei centri urbani. Tutti i limiti vengono abbassati di 20 km orari, vuole dire che là dove ci sono i 50 si va ai 30, là dove ci sono i 90 si va ai 70 e così via. Accanto a questa manovra ci sarà una scontistica sui mezzi pubblici, autobus e metropolitane là dove esistono. Questa scontistica è assistita da un fondo di 12 milioni che il mio ministero mette a disposizione già a partire dal 2015, in più il divieto di bruciatura di biomasse. Chiaramente questo vale solo per coloro che hanno un metodo alternativo di riscaldamento. Eccoci qua, buonasera cari ascoltatori, ben ritrovati con Si può fare, buonasera da Alessio Maurizi, insieme fino alle 21 all'800 24 0024 per intervenire in diretta naturalmente, ma siamo anche su Facebook, Si può fare, trattino Radio 24, la nostra pagina, il programma che normalmente vi accompagna il buongiorno del weekend su Radio 24. Adesso invece siamo nell'orario della zanzara fino a domani sera per farci gli auguri insieme. Siamo anche su Twitter, @ Si può fare 24, la del programma. Allora, intanto un'informazione di servizio che riguarda la serata di ieri. Premiamo gli ascoltatori Lucio da Roma e Rosaria, sempre da Roma, con la telefonata più interessante, più originale, che ci ha convinto di più. Vi avevamo chiesto qual era la vostra bella notizia, più bella notizia del 2015. Lucio da Roma ha ritrovato lavoro, Rosaria da Roma addirittura ha sconfitto una malattia, il tumore, ha voluto ringraziare tutti i rappresentanti della sanità che l'hanno curata. Complimenti a loro, vincono i biglietti e il catalogo della mostra Tamara dell'Impiccica a Verona. Stasera invece allarghiamo la bella notizia dell'anno, vi chiedo di pensare in grande, proprio notizie importanti. Per esempio il salvataggio della Grecia è stata la più bella notizia per voi di quest'anno, oppure la distensione tra Stati Uniti e Cuba dopo anni di relazioni tese con l'annesso viaggio di Papa Francesco a Cuba, oppure un'altra notizia completamente ignorata e dimenticata ma che ci portiamo dietro, è che è stata debellata la malattia dell'Ebola. Ricordiamocelo, 11.000 vittime da questa malattia, è stata debellata completamente. Io alcune di queste notizie sono andato a ricercarle sul sito buonenotizie.it, anzi li ringraziamo, perché ci dimentichiamo. Allora, non è che vogliamo chiudere gli occhi di fronte alle difficoltà che ci sono, alle cose negative che ci portiamo dietro, però vogliamo anche non dimenticarci tanto facilmente delle belle notizie. Un'altra bella notizia, la volete? La sconfitta dell'ISIS a Ramadi. Poi si tratterà di vedere se sconfitta definitiva o no, però intanto insomma l'esercito del male, chiamiamolo così, è stato sconfitto. 800 24 00 24, chiamateci, e anche questa sera in palio un premio per la telefonata più originale, più interessante. Le unioni civili credo che sia una riforma che le persone chiedono, è la gente che la vuole, e l'Italia credo che sia molto indietro su questo. Il Parlamento non può lasciare sole migliaia e migliaia di coppie che aspettano questo, e dobbiamo anche poi capire che siamo ormai rimasti gli unici in Europa a non avere una regolamentazione sulle coppie di fatto, quindi io ritengo che sia una necessità, una priorità, nel rispetto delle diverse sensibilità, ma non è perché le questioni sono complicate che il Parlamento non se ne deve occupare, perché questo aumenta il disamore da parte dei cittadini. Being out like this forever, who me, no way. ieri Renzi lo ha detto in conferenza stampa: avanti tutta con la legge sulle unioni civili, non temiamo i contraccolpi anche all'interno del governo, perché sapete che nella maggioranza il nuovo centrodestra è recalcitrante, se non addirittura contrario almeno a una parte di quella legge. E invece Renzi ha detto: andiamo avanti. E con noi la relatrice del disegno di legge, Monica Cirinnà. Buonasera. Buonasera a voi e agli ascoltatori, grazie per questo invito. Eccoci qua, allora c'è anche Carlo Gabardini in collegamento telefonico. Ciao Carlo. Buonasera senatrice. Su un tema così, Carlo, anche se insomma ti sei allontanato dal centro di gravità qua di Monterosa a Milano, però non potevi non esserci. Sarà davvero Cirinnà la volta buona? Ah, certamente sì, la legge è incardinata in aula, è calendarizzata per il 26 di gennaio. Potremmo stare in aula 2-3 giorni e poi alla fine questo paese finalmente avrà una legge. Mm. Si sente dire spesso, soprattutto da chi è contrario. È una notizia bellissima, possiamo dirlo? Carlo è già partito in quarta. Sì, è una notizia bellissima. Però Cirinnà, se fosse così e con tutta la sua legge sarebbe molto bello. Ci spieghi però qual è la ratio? Perché si sente dire spesso, io mi metto dai panni, io sono favorevole a questa legge, però mi metto nei panni di chi la critica e dice: ma ci sono altre priorità, per esempio il governo dovrebbe impegnarsi per il lavoro, le pensioni eccetera. Perché invece il PD e il governo hanno questa priorità? Allora, il benaltrismo è quello che ha portato questo paese ad essere l'ultimo del mondo in campo di diritti. Vi rammento che il welfare italiano, proprio per dire si sostenga la famiglia numerosa, la famiglia di persone sposate, è l'ultimo come donazioni, come dazioni di denaro per le famiglie e l'ultimo degli ultimi per quanto riguarda il diritto delle coppie di persone dello stesso sesso. Quindi col benaltrismo non si va da nessuna parte. Quante sono le persone che potrebbero essere interessate, sono interessate in Italia da una legge di questo genere? C'è una cifra di... Ma noi non abbiamo delle cifre precise, se non altro perché l'Istat non ha mai considerato le coppie di persone dello stesso sesso all'interno dei censimenti, se non forse rispetto soltanto ad alcune domande. Io ritengo che quando si tratta di far uscire dalla discriminazione persone che non hanno diritti, fosse una, un milione o 100 milioni, l'importante è riconoscere i diritti. Quindi fare una distinzione sulla base numerica di chi deve essere ascoltato dal governo, se è una minoranza o non è una minoranza, secondo me è sbagliato. E comunque, il punto vero è che noi finalmente mettiamo mano al diritto di famiglia in questo paese. Per avere dei diritti in questo paese o sei una coppia di eterosessuali sposati oppure elemosini qualche diritto frutto di sentenze dei magistrati. Così noi avremo le famiglie di eterosessuali sposate, avremo le famiglie di coppie dello stesso sesso unite civilmente e poi avremo i diritti di chi convive more uxorio. Quindi avremo la possibilità che i nostri cittadini mettano al proprio amore l'abito che ritengono sia più giusto, in piena libertà. Quali sono questi, diciamo, diritti che si acquisiscono nel momento in cui ci si unisce civilmente? Ci si unirà civilmente? Gli uniti civilmente andranno davanti al sindaco e prenderanno un impegno reciproco in termini di diritti, di doveri e soprattutto di responsabilità. Acquisiranno tutti i diritti delle persone eterosessuali sposate, tranne due diritti importantissimi, ma purtroppo che resteranno per loro una discriminazione, che è il diritto a poter adottare dei bambini, quindi l'adozione rimarrà vietata, e la possibilità di adire alle tecniche di procreazione assistita. Sapete che la legge 40 vieta in Italia tecniche di procreazione assistita per le coppie di persone dello stesso sesso. Gli altri diritti, che sono i diritti sociali, i diritti civili, i diritti previdenziali, saranno tutti quanti acquisiti, perché la legislazione europea ci dice che non si può discriminare in base all'orientamento sessuale. Quindi per esempio la reversibilità della pensione, quelle cose. Avranno anche la reversibilità della pensione. Ma è la famosa, è questa famosa stepchild adoption, la toglierete o la lascerete nella legge del 26 gennaio? Spieghiamo però di cosa si tratta, è la step, perché è un termine inglese, cioè la possibilità di adottare il figlio naturale di uno dei due partner. Anzi, se possiamo dire, è molto importante spiegare che cos'è, perché secondo me questa parola che dice stepchild, c'è qualcuno che pensa che voglia dire l'adozione per step e che quindi lentamente chiunque potrà adottare. Non è così, stepchild significa figliastro, quindi è semplicemente l'adozione del figliastro da parte dell'altro partner. Ci sarà nella legge, ci sarà. I termini italiani che fanno capire bene a chi ci ascolta. Sì. Si tratta di estendere la responsabilità genitoriale sul figlio del proprio partner. Quindi il secondo genitore diventerà il genitore sociale di un bambino che ha un genitore naturale, biologico. Ecco, questa ma, sì. è l'unica adozione prevista nella legge. Quindi questa ci sarà, lei conferma che ci sarà, perché questa non piace al nuovo centrodestra, tra l'altro, lo ha detto, insomma. Però voi sì, andate avanti ma, su questo. Io ho semplicemente ridepositato sì. in aula sì. quel testo che passò con i voti del PD, dei 5 Stelle e di SEL Gruppo Misto nel lontano 26 marzo di quest'anno. Quindi io ho riprodotto quel testo unificato che era stato già approvato in commissione. Però mi fa capire ancora meglio di che tipo di situazioni stiamo parlando, perché mettiamo l'esempio, io sono un maschio, sono omosessuale, come può capitarmi di avere un figlio naturale? Con l'utero in affitto, per esempio? A lei può capitare di avere un figlio in una, da una relazione precedente, per esempio. Esistono le famiglie Rainbow, che sono famiglie ricostituite di persone che si sono scoperte omosessuali nel corso degli anni e che avevano avuto in precedenza figli in famiglie eterosessuali. Questo è un esempio. Il secondo esempio, poi, lei si potrebbe innamorare di un inglese, che un uomo inglese al quale è stato consentito un'adozione di un bambino. Perché in questa è una pratica, poi... esatto, che in Italia non si può fare, ma all'estero sì, e quindi potrebbe essere, esatto. potrebbe essere noi, questo. Noi dobbiamo considerare che la globalizzazione dei diritti e della libertà dei nostri cittadini non vale soltanto per quello che ci fa comodo, per esempio per andare a acchiappare i foreign fighters che combattono per l'ISIS. Se un nostro cittadino decide di andare in California, fare la gestazione per altri con il proprio compagno omosessuale e tornare con il loro bambino, nel rispetto della legge californiana o della legge canadese, noi non possiamo punire quel bambino che arriva in Italia perché è nato in un modo che sì. noi condanniamo o attraverso una legge che noi non abbiamo. Però c'è qualcuno, sì. c'è qualcuno, Cirinà, che dice, sempre insomma nel nuovo centrodestra, tra i critici, ma anche alcuni cattolici della minoranza del Partito Democratico, che dicono però questa in pratica è un modo per consentire solo per esempio alle coppie omosessuali facoltose, benestanti, che possono per esempio ricorrere andando all'estero a pratiche come l'utero in affitto, di poi avere un figlio e procedere all'adozione con questa legge. Invece allora, le coppie non facoltose colleghi, non potrebbero allora, farlo. A questi colleghi bisogna spiegare, e non l'ho detto io, ma l'ha detto Eugenia Roccella su Sky in un dibattito contro di me, che il 98% delle coppie che vanno all'estero a fare gestazione per altri sono eterosessuali sterili. Sono coppie di sposati eterosessuali, per cui per esempio lei è stata operata di utero e ovaie per un cancro, oppure uomini infertili. Allora io vorrei chiedere ai colleghi che adesso tirano fuori questa questione per quale motivo fino a 6 mesi fa non ne parlava nessuno, perché afferiva alle coppie di eterosessuali sposate questo problema di infertilità, e viene fuori, tirato fuori adesso solo per bloccare una legge giusta e che tira fuori l'Italia da essere un paese che discrimina. Senta, Carlo, tira fuori una domanda, carica la domanda, facciamo le informazioni sul traffico, domanda per la Cirinà e poi torniamo tra un secondo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Chissà se si riuscirà nel 2016 a celebrare una di queste benedette unioni civili che attendiamo da un po'. Carlo Gabardini, tu che sei stato anche testimonial dell'ultimo Gay Pride, tra l'altro, tutto bene quello che ha detto la Cirinà? Sì, assolutamente, anzi, intanto vorrei ringraziare la senatrice nel momento in cui dice resta il fatto che le coppie omosessuali sono discriminate, perché sulla questione dei figli e della possibilità di adottare per il momento non esiste una legge, perché è così, e questo fatto di avere i diritti sempre centellinati è molto doloroso, semplicemente, perché nel momento che uno ti accorda un diritto ma non te ne accorda degli altri, è come ricordare che io comunque sia resto un cittadino di serie B. Quindi la ringrazio per aver comunque detto che quella resta una discriminazione, però intanto si va avanti per gradi, e appunto perché si va avanti per gradi, anche se qualcuno dice o tutto o niente, di nuovo la cosa che mi chiedo, siccome ieri ho letto sul Corriere, se non ricordo male, che esisteva un'ipotesi che la senatrice Cirinnà ritirasse l'articolo 5, se non ricordo male, che è quello sulla stepchild adoption, volevo semplicemente sincerarmi che con ogni certezza la legge del 26, che andrà in aula il 26 gennaio, conterrà la stepchild adoption, quindi con ogni probabilità verrà, credo, votata dal Movimento 5 Stelle e non dall'NCT, oppure no? Allora, intanto tranquillizzo Carlo e gli mando un saluto e un bacio da Filippo Rossi, che ho tranquillizzato pochi minuti fa sullo stesso argomento. Ah, perfetto. Caramba, momento caramba. Perché sono mesi che in realtà dobbiamo incontrarci con la senatrice Cirinnà e ogni dibattito, ogni cosa, per un motivo. Vi abbiamo fatto incontrare noi di Radio 24. Esatto, perfetto. Io allora, sarei felicissimo. Il testo 2081 è già depositato in aula, sì, e contiene l'articolo 5. Chi lo vorrà eliminare dovrà presentare un emendamento soppressivo. Pensavo dovrà passare sul mio cadavere, pensavo stesse per dire. Sì. Senta, ieri mi sembrava che ci fosse uno spiraglio. Fatemi finire di spiegare, perché purtroppo è una cosa tecnica un po' complicata. Quando un testo è incardinato in aula, non c'è nessuna possibilità, neanche mia, che sono la relatrice, quella che ha scritto il testo, di togliere un articolo. L'articolo può essere tolto soltanto attraverso un emendamento. Quindi non c'è dubbio su questo. Tralcio modificativo. Sarà un problema, scusi, Cirinnà, sarà un problema se a votarlo sarà il Movimento 5 Stelle e non una parte della maggioranza, come i centristi? È già accaduto nella storia parlamentare di questo paese che tutte le grandi riforme, in particolare quelle sul diritto di famiglia, pensate alla legge sul divorzio, sono state votate con maggioranze diverse le maggioranze di governo, e non mi risulta che in quegli anni cadde il governo, e non mi risulta che cadde sulla legge sull'interruzione di gravidanza. Sulle grandi riforme si cercano le maggioranze ampie, e io vi dico che anche una parte dei colleghi della maggioranza di NCD piuttosto che dell'opposizione di Forza Italia saranno persone libere e capiranno che si manda avanti l'Italia quando crescono i diritti. Però la questione è chiarissimo che l'articolo 5 può essere eliminato solo da un emendamento, ma mi sembrava, da quello che leggevo ieri, che esistesse la possibilità che lo stesso PD votasse per questo emendamento e quindi decidesse di eliminarlo per far passare la legge in maniera vado oltre perché c'è la possibilità che si parli di affido, Cirinnà. C'è la possibilità che si parli di affido, però, invece che di adozione? Qualcuno vuole parlare di affido, ma parlare di affido avrebbe due risultati entrambi nefasti. Il primo, creare un'incertezza a vita per quei bambini, perché il genitore affidatario non ha obblighi e in qualsiasi momento può sottrarsi. Il secondo è rimettere mano alla legge sull'affido che abbiamo appena votato e creare un affido speciale per i figli delle coppie gay, e lasciare con la legge attuale i figli affidatari delle coppie eterosessuali, quindi un'ulteriore discriminazione. Chiaro. Di cosa parliamo? Una follia. Un faro nella nebbia, che sono le sentenze dei tribunali. I magistrati continuano ad applicare l'articolo 44 della legge 186, cioè la stepchild, e noi seguiremo quella strada. Io spero vivamente che il PD non decida di votare a favore di questo emendamento, perché credo che sarebbe una grande sconfitta per questa legge se passa senza stepchild. Comunque, e l'altra cosa che volevo chiedere era, se dovesse passare la legge, c'è qualcuno che già dice si farà il referendum, posto che io personalmente ben venga la battaglia sul referendum, che può essere sempre fertile, non penso che sia molto sana, perché non penso che per i diritti bisogna chiedere delle maggioranze, perché è un po' come quando si fa una legge per i disabili, per esempio, se sono un numero minore non è attraverso un referendum che si danno i diritti, penso io. Ma lei pensa che ci sarà un referendum nel momento che passa questa legge? Io penso che chiunque vorrà presentare una domanda referendaria per far tornare alla discriminazione si qualificherà da solo per quello che è, cioè e una persona che vuole. Bravo. Secondo punto, sembrerà una risposta tecnica, ma in realtà è fondata. Il Senato approverà unioni civili, la Camera approverà unioni civili, la legge che esce dal Parlamento va in Quirinale, dove il Presidente la firma e la pubblica in Gazzetta Ufficiale. Sì. Quindi il Presidente non firmerebbe mai una legge incostituzionale. Senta, il referendum abrogativo dovrebbe essere vagliato dalla Corte Costituzionale, che dovrebbe dire prima al Senato, poi alla Camera e poi al Presidente Mattarella che hanno messo mano a una legge incostituzionale. Intanto chiedo a tutti e due se avete una vostra particolare notizia del 2015, una bella notizia che, con cui ci vogliamo poi salutare, ci volete lasciare. Qual è la più bella notizia secondo voi dell'anno? Cirinna, ma Renzi personalmente, lui è favorevole allo stepchild adoption, pur essendo lui diciamo della corrente cattolica del Partito Democratico, vicino a quelle posizioni, però lui personalmente è favorevole, mi sembra, no? Lui l'ha detto ieri in modo molto chiaro, ha detto che la proposta nacque nella Leopolda del 2012. Esatto. Vi ricordo poi che è questo testo, cioè civil partnership alla tedesca con stepchild, entrò addirittura nel programma dell'Ulivo e poi nell'Italia Bene Comune. Quindi mi domando, anche i miei colleghi, chi si è candidato senatore o parlamentare nel Partito Democratico si è impegnato sul programma. Questo programma noi lo stiamo attuando. Chi ci ha ripensato? Oh. No, le faccio un'ultima domanda che forse è un po' stupida, ma se dovesse passare il 26 gennaio questa legge, qual è la prima data utile nella quale posso sposarmi, che ho bisogno di dirlo a mia mamma? Allora, il 26 gennaio entriamo in aula, secondo me prima del 29 non ne usciamo. Poi va alla Camera. Alla Camera speriamo che lo fissino subito, diciamo se va bene lo fissano entro marzo, un altro mesetto ci vorrà alla Camera, diciamo aprile, maggio, diciamo che quest'estate lei ha l'unione. Carlo, i mesi migliori sono giugno e settembre per sposarsi, quindi ce la fai. Perfetto, va bene. Anch'io sono sposata a giugno. Vabbè, allora dirò, mi sposo a giugno come la senatrice Cirinna, che mi sembra un perfetto posto. Mi sposo il 10 giugno come Monica. Esatto. Vengo io a fare l'unione civile nella sua città. Cirinna, qual è la più bella notizia del 2015? Molto. La sua più bella notizia dell'anno? Ce l'ha una? Sì, sicuramente vi sembrerà una cosa settaria, ma sapete che io sono molto animalista, la condanna definitiva per il canile Green Hill, che è stato un canile dove i beagle venivano sfruttati. Si facevano esperimenti, abbiamo fatto una grande battaglia trasversalissima, io, la collega Brambilla, tante associazioni, per far sì, e questo è avvenuto con un mio emendamento in aula, che nessun cane e gatto possa essere più allevato per morire negli stabulari in Italia. Certo, viva gli animali, non farli soffrire inutilmente. Carlo, tu ce l'hai una bella notizia dell'anno? Ma io già ne ho parlato ieri, insomma è sicuramente legato per me al mio libro, per il semplice fatto che ho finalmente scritto questa lettera a mio padre, che è morto 15 anni fa, e quindi sono felicissimo di questo. Vabbè, se ci hai messo 15 anni a scrivere la lettera a tuo padre, puoi aspettare qualche mese per sposarti civilmente. Va bene. Grazie Carlo. Accetto la provocazione, grazie. Un grande abbraccio Carlo Gabardini, ci risentiamo magari anche domani per un saluto, l'ultimo dell'anno, ma un saluto e auguri a questo punto anche a Monica Cirinna. A grazie. Presto. Grazie a tutti voi. A presto, auguri. Niente, siamo in chiusura, non c'è spazio per gli ascoltatori. Ci risentiamo dopo il giornale radio 800 24 00 24. Qual è la più bella notizia del 2015 per voi? A dopo. Audiogrammi speciale Natale. Sei Alex Larson? Dipende da chi me lo chiede. T'ho mandato una lettera. Chi mi conosce non mi scrive, perché non so leggere. Per cui non posso conoscere uno che lo fa. You are a cinema. I grandi classici del cinema e della letteratura raccontati alla radio. Il signor Davis ha detto che dare un'istruzione a una donna è utile quanto dare un'istruzione a una gatta. Giovedì 31 dicembre, tornate bambini. Vivrete l'emozione di una grande storia, come mai l'avete ascoltata. Deve tornare libero, è la sua magia. Vi aspettiamo giovedì 31 dicembre alle 22 su Radio 24. Audiogrammi, in radio come al cinema. Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Vi presenta... Si può fare. Cronache da un paese migliore. Le risorse programmate, disponibili già in questo protocollo, sono 405 milioni di euro, 35 milioni vengono dalla mobilità sostenibile, quindi dal collegato ambientale, che vanno in particolare a finanziare casa scuola, casa lavoro, car e bike sharing e il piedi bus, 50 milioni, lo ricordavo prima, per la realizzazione di reti di ricarica elettrica, 250 milioni per l'efficientamento energetico delle scuole, 70 milioni di euro per la riqualificazione degli edifici della pubblica amministrazione centrale. Eccoci qua, buonasera di nuovo cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi con Si può fare insieme fino alle 21. Ma non trovate strano anche voi il fatto che il blocco del traffico, che non è servito a nulla a Milano per abbassare le emissioni, le polveri sottili, con questa notizia alle spalle si esca da un incontro con Ministro Galletti, sindaci, responsabili dell'ambiente, della salute, eccetera eccetera, nelle città italiane, con una intesa su abbassare la velocità massima di 20 km all'ora, da 50 a 30 nelle città, 90 a 70 laddove c'è il limite, eccetera eccetera. Cioè, io dico, se non è servito a nulla tenerle ferme le macchine, a me sembra strano che possa servire a qualcosa farle andare un pochino più veloce, più lentamente, e basta. Una misura, questa zona 30, di cui abbiamo parlato tante volte, per esempio Si può fare weekend, che va benissimo per migliorare la vivibilità nei quartieri, per favorire l'andamento dei pedoni, delle biciclette, va benissimo. Però che c'entra con l'emergenza polveri sottili? Altra cosa sono invece le misure a favore, per esempio, della sostituzione degli autobus che sono vecchi. In Italia circolano circa 100.000 autobus, molti hanno 10, 15, forse 20 anni, moltissimi di questi. Il governo ha stanziato 250 milioni. Abbiamo fatto un po' di conti, un autobus costa da 2, 300, 400 mila euro, forse anche qualche cosa di più, può darsi che se li compri in massa ti costino un po' di meno, ma insomma con 250 milioni di euro, se ti va bene, ne compri tra 500 e 1000, cioè meno dell'1% di tutti gli autobus circolanti. Non è moltissimo. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Un giorno un po' freddo, Il freddo dobbiamo imparare a conviverci, perché l'altra misura è quella di abbassare i 2 gradi la temperatura dentro gli edifici. Però anche questa è una cosa di cui si è parlato 1000 volte, 100.000 volte, e chissà perché occorre ribadirlo adesso. Movimento 5 Stelle alle prese con un altro rischio di espulsione, in questo caso il sindaco di Gela messinese, per il quale si parla, appunto, ci sono 2 meetup in contrasto tra di loro a Messina, uno a favore e uno contro di lui, per il quale appunto si parla di una possibile espulsione. Sentiamo. A me non ha chiamato nessuno e devo dire che da molto tempo che non li sento, forse avranno il numero non memorizzato, però non mi ha chiamato nessuno e nessuno ha mai chiesto spiegazioni personalmente. Io sono del Movimento 5 Stelle perché la trasparenza, la chiarezza e l'onestà sono dentro di me. Cari ascoltatori, vi aspetto anche per chiedervi qual è la vostra più bella notizia di questo 2015 che si sta per chiudere. Ho fatto alcuni esempi, c'è chi scrive: sconfitta l'Ebola, ma cosa stai dicendo? E invece no, è così, lo confermo, anzi sono andato a cercare conferme di poche ore fa, tra l'altro, che anche in Guinea l'Organizzazione Mondiale della Sanità per la Guinea parla di Ebola free, fine dell'emergenza, fine dell'epidemia, non c'è più pandemia. Sicuramente in queste situazioni bisogna sempre stare allerta, però questa sicuramente è una buona notizia del 2015 che ci portiamo di là nel 2016. Allora, abbiamo sentito Galletti, abbiamo sentito l'Italia alle prese con l'inquinamento, le polveri sottili. Pensate che la Norvegia ha annunciato poco tempo fa che entro qualche anno passerà completamente all'utilizzo di energie da fonti rinnovabili. Addio ai combustibili fossili e anche, immagino, alle polveri sottili. Ecco noi Jon Roglien, sapevo che avrei sbagliato. Jon, buonasera. Buonasera. Giornalista, traduttore, critico letterario norvegese che vive a Oslo. E intanto complimenti. Come ci si sente a vivere in un paese, diciamo, in prima linea, no? In questa, sul fronte della lotta all'inquinamento? Sì, è vero che per certi versi è in prima linea, ma per altri motivi. Sai che Norvegia è anche un grande produttore di petrolio. Sì, no? Sì, sì. Che l'economia, che abbiamo una buona economia, che adesso sta in ribasso, giusto perché il calo dei prezzi di petrolio. Così c'è sempre questo, diciamo, schizofrenia, che c'è molto ambientalismo, ma poi anche c'è tutto questo fervore del petrolio tutto il sì. tempo. Qui tu dici che potrebbe essere il calo del prezzo del petrolio ad avere spinto, diciamo, ad andare anche in questa direzione, cioè a farne a meno, se non altro per quello. Diciamo che ci sono due filoni sì. contrastanti qui, no? Che l'ambientalismo è molto forte qui, no? Così quelli che adesso hanno conquistato Oslo come governo qui, che sono i Verdi, altri, uh-huh. e finalmente possono fare cose che hanno voluto, diciamo, a prescindere del fatto del petrolio, ma vuol dire come Norvegia, non è che Norvegia è un santo nel mondo, per dire, no? Beh, sai, visti dalla nostra prospettiva sembrate molto vicini, diciamo così, alla santità. Intanto, per dirne una, la questione delle polveri, dell'inquinamento causato dai riscaldamenti o dal traffico, c'è anche lì, oppure il vento, il mare, rendono l'aria per voi fortunatamente pulita, Jon? No, sì, sembrerebbe pulito perché fa freddo e molto secco anche l'aria, no? Non c'è quell'umidità che magari dà fastidio in modo fisico, però quando fa molto freddo qui, che a Oslo può anche scendere fino a meno 20 gradi, sì. qui che stiamo sul mare, e fa una specie di effetto conca che tutto si chiude, e allora a quel punto l'inquinamento, benché ci sono molto meno macchine qui che da voi a Milano o Roma, però comunque l'aria diventa pesante. Qui fanno un sacco di cose ora sì. per ridurre il traffico di automobili qui in città. Perché per esempio Oslo, che è una città, la capitale di 600.000 abitanti circa, giusto? Mi sono documentato bene. Che auto circolano? Molte auto elettriche, per esempio? Sì, quello è un'iniziativa che è stato ha avuto molto successo qui, sì. perché il Comune, lo Stato, dà una forte sovvenzione per le auto elettriche. Ah. Per esempio, quando loro ricaricano la macchina, sì. per strada, sì. ci sono dei posti gratis dove tu puoi metterti. Ah, fai il carburante gratis, cioè che ricarichi la batteria gratis. Sì, in città, però lì sì. non è che tu puoi restare lì, cioè a casa tua tu devi fare il modo tuo, insomma, no? Però se parcheggi al centro ci sono questi posti, non tantissimi, però lì poi prendere e trovare e caricare. Anche il parcheggio è gratis, sì. e puoi anche usare, per esempio, come dice, le corsie preferenziali, ah, vedi. Se c'hai la macchina elettrica. Beh, elettrica. Hai un sacco di vantaggi se hai l'auto elettrica, sì, e sì, anche sì. al momento dell'acquisto hai un incentivo sì, economico. Ma quello è molto forte, perché in Norvegia la macchina è molto cara da comprare. E quanto ti danno? Quanto ti danno? Non so, se l'auto elettrica costa, metti 20.000 euro, quanto ti danno? Se è una macchina che costa 20.000 euro, ti danno, cioè, praticamente ti fanno metà il prezzo, perché se tu compri una macchina normale, che magari in Italia costerebbe 30.000 euro, qui raddoppiano il prezzo con i tassi, no? Raddoppiano. Okay. Allora io devo comprare una macchina, per questo anche ci sono un sacco di vecchie macchine in Norvegia, perché costa veramente tanto comprarlo, no? Quindi se l'auto normale viene tassata e va a costare una cifra alta, il doppio rispetto a quello che può costare in Italia, l'auto elettrica invece non ha questa tassazione e quindi diciamo viene a costare di meno. Che auto sono? Che auto sono? Perché in Italia ci sono un po' di auto ibride, non moltissime. Ma quelli ibridi, cioè, specialmente Toyota è stato molto bravo a fare questo ibrido. Adesso ci sono molti elettrici di varie marche, c'è anche Volkswagen, c'è Peugeot, c'è, insomma un po' tutti. Tutti ormai fanno, ma quello che è più famoso qui è sicuramente Tesla, che è una macchina che è nata come una macchina elettrica e che ha fatto un sacco di, come si dice, di balzi avanti sulla batteria, sull'effettività, insomma sono molto sportivi, molto forti quelle macchine. Poi con l'incentivo diventa un piacere, non c'è una cifra costano, no, infatti, perché diciamo di base costerebbe, non lo so, 50.000 euro, qualcosa così. Esatto, perché sono ancora un po' care so. Capito, però in confronto alle altre macchine a quel punto la nuvola diventa Diventa quasi conveniente. Io avevo letto, a proposito delle polveri sottili, una notizia incredibile di una cittadina, Drammen, dove c'è il porto, un porto inquinante, dove a un certo punto per eliminare le polveri sottili avevano studiato questo sistema, che io consiglierei anche in alcune città italiane, perché no, che la mattina presto andavano, spazzavano e buttavano l'acqua per evitare che queste polveri poi volassero in aria. Mi è sembrata una soluzione straordinaria. Questo è giustissimo, perché quelle polveri, diciamo, di notte scende e diventa polvere, diciamo, per terra. A quel punto non fanno niente male, però con tutta la circolazione va su in aria. Allora se la mattina si potrebbe pulire, giusto, lavare la città, farebbe un gran bene. Qui a Oslo non lo fanno ancora, ma qui neanche puliscono le strade, sai che stranamente questo paese così ricco non ci sono i spazzini, cioè, non puliscono. E come fate, Ion? Come fate? Niente, così ognuno si gestisce il suo pezzettino di marciapiede? Cioè, due volte l'anno fanno un po' una pulizia generale. È molto strano, perché qui anche perché il costo di lavoro è alto, allora a quel punto dicono non si può. Questo diciamo è il danno di essere un paese ricco. Non me l'aspettavo questa qua, che non ci sono gli spazzini per strada, ma nemmeno nella capitale, Oslo? No, qui è peggio di tutto, perché nelle piccole città invece c'è più senso di responsabilità, senso di appartenenza, magari che la città è nostra, eccetera, no? Ma nella grande città, ma a chi appartiene la città? Senti, questo obiettivo, no, che è stato annunciato qualche tempo fa di raggiungere il 67%, credo, per cento, ti risulta di contributo nel fabbisogno energetico con le energie rinnovabili? È un obiettivo realistico? Sì, ma in Norvegia anche c'è un sacco di cascate, no? Sì. E usiamo molto elettricità per produrre, per esempio, l'alluminio. Sì. Che è una cosa che vuol dire, se colgono queste cose di alluminio, a quel punto c'è troppa elettricità in questo paese. Però di più fonti di energia sono messe, di più la gente consuma, e quello anche, come ha detto prima, che bisogna abbassare per esempio di 2 gradi la temperatura nelle edifici. Per voi è un problema col freddo che fa? Sì, ma la gente qui fanno 25 gradi nella casa, tu entri in una casa e non è possibile starci perché fa troppo caldo, capito? E quello anche è importante di capire, che non fa bene stare. Abbiamo gli stessi problemi da questo punto di vista con l'Italia, con la Norvegia. Grazie Ion, ti salutiamo, ti facciamo gli auguri di buon anno, dobbiamo dare la linea alla borsa, ci risentiamo tra pochissimo. si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, linea agli ascoltatori. Andrea da Pesaro, buonasera. Buonasera, dottor Maurizi, salve, congratulazioni per la trasmissione, per la sua bellissima figlia, visto che ho l'onore di essere sua amica su Facebook, la vedo così. Grazie. Caramba, proprio, facciamo una carambata. Cos'è caramba? Siamo, no, nel senso, caramba che sorpresa, siamo amici su Facebook, può darsi, sì, vabbè. Sì. Va bene. Senta, le volevo dire questo, sì. Io sono, mi scuso, ma sono, non so se più emozionato, più stanco, per cui può darsi che... Che è successo? È stanco perché ha lavorato tutto il giorno? Sì, ho lavorato tutto il giorno a portare in giro il latte col furgone. E che lavoro fa Andrea? Fa il trasportatore? No, no, io faccio l'agricoltore, sì. Sono stato uno di quelli che 10 anni fa, anche aiutato dai 5 Stelle, di quello volevo parlare, facendo molta fatica, avevo cercato di salvare la mia azienda di vacche da latte a Pesaro, uh-huh. Quei distributori che poi sono stati boicottati dalla grande industria, siamo finiti a gambe all'aria io e molti altri. Che tipo di distributori sta intendendo? Purtroppo che c'erano alcuni anni fa, ce ne sono ancora in giro per l'Italia, Milano sì. Ci sono per esempio, ci sono questi distributori di latte crudo in cui uno che abbia passione per un latte a chilometri zero va, si compra il suo litro di latte in una, come nelle casette dell'acqua, si prende sì, l'acqua nelle sì. Casette del latte, io sono stato uno di quelli che... È una cosa bellissima, era... sì. Certo, era bellissimo, lo vado a dire a Granarolo, Trevalli, Parma, la società della Liceo Torino, che alla fine del 2008 grazie a De Castro ci hanno scatenato addosso. Vi fanno la guerra? Vi fanno la guerra? No, non so, ce l'hanno fatta, l'hanno vinta, io ho perso l'azienda, tanto per essere chiaro, però siccome sono più tignoso di loro, adesso con 20 vacche biologiche in cima alla montagna, che fanno un latte che è diverso da quello di una stalla di 1000 vacche come in California, mm-hmm. Mi sono rimesso a tentare la fortuna a 55 anni, vendendo, imbottigliando, pastorizzando, imbottigliando del latte di una stalla biologica qui vicino, e vediamo cosa succede. E cosa lo porta direttamente a chi glielo chiede? Piccoli negozietti di nicchia qua a Pesaro, sta andando piuttosto bene. E il prezzo del suo latte, per curiosità, è molto più caro di quello di un altro latte? No, guardi, abbiamo deciso che la gente in questo momento non ce la fa, anche se magari ci saranno quelli più raffinati che potrebbero permettersi. E quanto costa un litro? Guarda, questo è latte biologico che costa al pubblico 2,20 euro contro i 2,05 euro di quello industriale, però tenga conto che ci sono 22 vacche che lo producono, per cui c'è quello, e se lo vuoi ed è più buono, non c'è niente da fare. Se una vacca mangia il fieno e invece dei sottoprodotti industriali, probabilmente quel latte è un po' diverso, cosa dice lei? Però io non ho chiamato per questo, se mm-hmm. si permette. Sì, ho chiamato per un'altra cosa. Io ho 55 anni, quindi insomma purtroppo ne ho fatti ne ho votate di politiche, e sarei un po' tendenzialmente un po' di destra, ma forse. Però negli ultimi anni ho votato 5 Stelle, ho gioito per le cose che hanno fatto in giro per l'Italia, per questa ventata di novità e anche di onestà che sicuramente li distingue profondamente. Poi c'è qui a Fabriano, vicino a casa mia, c'è la Fucsia che è stata cacciata ieri, per cui insomma su quello insomma credo che il Movimento 5 Stelle dovrà fare la sua battaglia per molti anni ancora. Però volevo dire una cosa, io l'ho passata brutta gli ultimi 5-6-7 anni di mia attività di imprenditore agricolo. Però ci sono delle persone che sono molto più coraggiose di me. Per esempio c'è un signore di Caserta, che non mi ricordo come si chiama, che è il presidente di un comitato per la terra dei fuochi, forse se la ricorda, una vicenda di un mese fa. Sì, vabbè, ce ne sono di rappresentanti. Beh, comunque, di quella, comunque, sì, per dire che cosa però, Andrea, concludiamo. Allora, per dire, insomma, questo è andato un mese fa, c'era il presidente Mattarella all'università Suor Rossola Benincasa a fare una conferenza, un convegno a Napoli. Allora? Bene, questo signore che voleva solo dare in mano a Mattarella una lettera, sì. con un appello, no? Perché i fuochi continuano a bruciare lì nella terra dei fuochi, nonostante gli annunci. Gli annunci, è stato, c'era Striscia Notizia che ha dato le immagini, è stato di fatto torturato, picchiato davanti alla telecamera dalla Bigos, dal questore che guardava, da un generale dei carabinieri. Vabbè, non ci si può avvicinare tanto facilmente al capo dello Stato. Ma era seduto rispettosamente in platea, non stava facendo nulla, l'hanno cacciato via in malo modo. E quello che a me ha sconvolto è che Di Maio, che è di lì, che era due file davanti, ha fatto finta di niente. Finta allora, di se niente. Questo è un paese in cui noi dobbiamo, io non voglio mica dire che sia una cattiva persona, Di Maio, sicuramente preparatissimo. Vabbè. Però ci vuole non conosco questa vicenda, ha fatto bene a dirla Andrea, grazie per aver chiamato, però non posso commentarla perché non so cosa ha fatto sta persona. Non è che ci si può avvicinare al capo dello Stato così senza chiedere qualche autorizzazione. È chiaro che ci sono c'è la Digos intorno, questo uno se lo può aspettare. Leonardo dalla provincia di Milano, buonasera. Buonasera. Prego. Buonasera. Devo che telefono per la questione dell'inquinamento. Sì. E prendo spunto dal comunicato del ministro dell'ambiente. È mia opinione, ma credo che non solo sua via, che ridurre la velocità in centro urbano oppure abbassare di 2 gradi la temperatura nelle abitazioni può andare bene, ma ridurre la velocità in centro urbano, secondo me, non solo non si migliora la situazione dell'aria, ma addirittura si peggiora. Ma io penso che sia scontato, Leonardo, perché se non è servito a niente tenerle ferme le macchine per 3 giorni, sì, a cosa sì, può certo. servire farle andare a 20 km in minuto? Sì, ma voglio dire, supposto e non concesso che sì. questo fosse un atto di, come dire, di buona volontà per migliorare la situazione, io dico che questa proposta addirittura peggiorerebbe, perché le macchine non inquinano perché vanno 30 o 50 all'ora, inquinano perché si fermano ai semafori, perché sono, cioè. Detto questo, devo anche aggiungere sì. però che per quanto riguarda il nucleare, per quanto io abbia sentito, sento sempre voi in trasmissione, non ho sentito nessuna voce in sarà perché è stato vietato tutto quello che si vuole, però il nucleare, Leonardo, il nucleare non è all'ordine del giorno, semplicemente questo. In Italia, oltre al voto che c'è stato, non c'è nessuna decisione che va nella direzione opposta. So che molti di voi lo pensano, forse anche in maniera fondata. La Francia lo fa, trae da quell'energia lì, che è energia sicuramente dal punto di vista delle emissioni più pulita di quella che viene dal petrolio. L'Italia non lo fa, noi stiamo puntando su altro, sul sole e sul vento. Io credo anche, giustamente, visto gli anni che ci vogliono per ammortizzare anche quegli investimenti, è un argomento che ritorna. Non se ne parla, Leonardo, per questo, perché non c'è niente all'orizzonte su quel fronte lì, nessun governo che abbia deciso di cambiare marcia. Andiamo con Luca da Milano. Buonasera. Buonasera. Ma prima di introdurre il mio argomento, mi aggancio un attimo ai 30 km all'ora in città. Mi chiedo come si fa ad andare in auto a 30 all'ora. Cioè, allora tanto vale andare in retromarcia, vale. C'è proprio una proposta da... No. Non... No, guardi, no, allora una follia. Io ho detto che no, non è una follia, Luca. Non è una follia, Luca. Non è una follia. Ci sono già alcune città che lo fanno, alcuni quartieri che lo fanno. Il problema è a cosa serve. Cioè, se io penso che andare. Scusa, Luca, fammi finire un secondo. Se noi pensiamo che questa cosa serva a diminuire le emissioni di polveri, io credo, sulla base dell'esperienza, che non serva a niente, che le aspettative andranno completamente deluse. Però può servire ad altro, ma è un altro ambito di discussione, capisci, Luca? Cioè, può servire per dare la priorità ai pedoni, ai bambini davanti alle scuole, all'ingresso degli ospedali, far andare le macchine più lentamente. Vabbè, questo può essere un progresso. Però non so, su un vialone dove si può andare a 100 all'ora, si può andare a 30 all'ora. No, un vialone in città non si può andare a 100, Luca, no, non andare a 100 all'ora in un vialone in città perché non si può, massimo no, 50. No, però dove puoi andare, già che fatica andare solo a 50, figurati a 30. È una proposta che servirebbe solamente a raccogliere più multe, nient'altro. Comunque, lo so fare di un altro argomento, sì? E più precisamente dei diritti, no, non ci rendiamo la bocca, i diritti civili... In particolar modo in questo periodo dei diritti degli omosessuali. Allora, io mi chiedo, diritto vuol dire non avere un diritto negato, qualcuno ti impedisce di fare qualcosa. Io mi chiedo, senza questa legge, che cosa viene impedito agli omosessuali? Che cosa? Lo sai benissimo, Luca. No. Di sposarsi, di potersi sposare, di poter vivere la loro unione con tutti i crismi come tutti quegli altri. E sì, ma all'atto pratico cos'è che ti impedisce? Sposarti è una parola, è un giorno, ti sposi, ok, poi cosa succede dopo che sei sposato? Vabbè, ma lo sai benissimo cosa sono le questioni, sono quelle allora, della reversibilità dei propri, sono due, sì, fondamentali. Uno è il diritto di poter lasciare i tuoi averi a chi capita ti pare. Bravo. E su quel fungo bisogna di essere sposati con nessuno. Tu puoi lasciare una carta e dire io posso lascio i miei averi a Tizio, sì, Caio Sempronio. Io ti ho di nessuno in nessun matrimonio. Sì. Il secondo diritto fondamentale è quello dell'assistenza. Idem con patate. Il resto è follia. La retribuzione della pensione è follia, che costa uno sproposito. Io mi chiedo in quale altro paese al mondo civile ti sarà resistita la pensione. No, guardi, in quale altro paese al mondo non si sono regolate le unioni civili? Cioè l'Italia, no, e pochi altri. Perché nei paesi sviluppati, ti darò una notizia, questa, le unioni civili esistono in Francia, in Germania, in Inghilterra. Vabbè, ma non necessariamente, quindi, se lo fa qualcuno, sì, altro, no, vuol dire, no, che qualcosa, cioè, hai fatto, cioè, bene. No, no, però visto che hai fatto tante domande, visto che hai fatto tante domande, le risposte ti vengono anche da quei paesi. Grazie Luca, buona serata, grazie. Sua porta, faccia presto, non importa cosa crede lei di questo movimento, ma l'avverto che al suo posto non ci penserei due volte, dato l'imminente arrivo di Gesù, perché poi non torna più. Mi sono reso conto che serpeggia tra i credenti il malcontento per la pioggia di mancati appuntamenti nei millenni, ma si metta nei suoi panni quell'incetta di pianeti da salvare, di pianeti da salvare. Possa la bontà del vostro cuore riscoprire che la verità si cela spesso dentro una persona sola, non è tanto il sesso a consolare l'uomo dal suo pianto, ma l'amore buono ed il perdono santo del Signore. Lasci che le spieghi in due parole com'è facile sentire gli echi bassi ed immorali di comportamenti frivoli e meschini, quelli certi omini in abito da donna, la vergogna che neanche gli animali. Apri un istante e ti farò vedere io che nasce sempre il sole dove cerco Dio. Con questo Max Gazzè sotto casa, adesso vogliamo provare a fare una piccola riflessione, diciamo così, in punta quasi di filosofia, no? Perché? Perché voglio parlare con voi ascoltatori e con un ospite che tra poco introdurrò di questo, cioè avete presente le polemiche che ci sono state, adesso poi ci dimentichiamo in fretta sul presepe, ci vorrà un altro anno per tornare a parlare di questo, è giusto farlo, è giusto non farlo, mantenere e rinnovare le tradizioni cattoliche e cristiane in un paese dove ci sono molte, sempre più persone di altre religioni, in particolare la religione islamica, ma anche in un paese dove in chiesa non ci va quasi più nessuno, e quindi ci vogliamo domandare con Donatella Di Cesare, buonasera. Buonasera a voi. Filosofa, insegna all'Università La Sapienza di Roma. Io ho letto il suo articolo sul Corriere l'altro due giorni fa e mi è sembrato interessante che c'è una proposta, che è quella di dire, visto che le religioni tornano così d'attualità in qualche modo per la presenza, vuoi, dell'Islam, dell'immigrazione in Europa, è ormai un dato di fatto, non possiamo più far finta di nulla, non possiamo più fregarcene, non possiamo più fare, come dire, stare su quel solco che pensavamo per noi fosse, diciamo, un sentiero che non poteva mai essere modificato, quello della laicità dello Stato, la religione è un fatto privato e nella dimensione pubblica ognuno, siamo lontani da quella dimensione, dalla dimensione della religione, non possiamo più fare a meno di non parlarne. Questo è il punto di partenza che mi sembra interessante, da cui lei poi, Donatella, dice adesso però allora bisogna informarsi, conoscere, sapere, non possiamo, diciamo, fare come lo struzzo che mette la testa sotto la sabbia. L'ho fatta un po' lunga, però è questo il punto, no? Esatto, è proprio questo. A mio avviso, diciamo, l'obiettivo del mio articolo, ma insomma anche un po' del dibattito che secondo me ci dovrebbe essere, è proprio questo, cioè io credo che noi siamo stati abituati a pensare che la laicità, essere laici sarebbe stato, diciamo così, sufficiente per la tolleranza, per tutti i valori che appunto in cui siamo vissuti fino adesso, no? Però purtroppo, diciamo, nel XXI secolo viviamo in uno scenario globale molto, molto più complicato e quindi sappiamo bene da 10 anni in questa parte almeno le cose sono cambiate anche nella vecchia Europa e sono cambiate anche in Italia. Quindi è diventato ormai la norma avere per esempio nelle aule delle università, nelle classi a scuola, allievi di almeno 3 religioni diverse, no? Quindi sì, io credo che Questa insomma è la mia posizione, che io ho parlato forse un po' provocatoriamente di naufragio del laicismo, quindi non naufragio della laicità, naufragio del laicismo, cioè che è importante il dialogo tra le religioni, ma nel senso non un dialogo di elite, ma imparare le religioni dell'altro. Perché non ci può essere un dialogo con l'altro se non si imparano le religioni. Se noi questo mi sembra il punto fondamentale. Se noi pensiamo che le religioni siano semplicemente un cumulo di dogmi, e quindi il cattolicesimo è un cumulo di dogmi, l'islam è lo stesso, l'ebraismo è lo stesso, che sono soltanto, come dire, strumenti di violenza, e beh, allora ci arrendiamo fin d'ora, ecco, questo insomma è quello che io penso. A me sembra interessante questa cosa, perché insomma, visto che ci stiamo rendendo conto che c'è questo ritorno di protagonismo anche delle religioni, anche che coinvolge anche chi magari non vorrebbe essere coinvolto, perché magari non ha fede, è ateo o è non credente, però se vogliamo evitare di tornare al passato, di schierarci in modo fanatico uno contro l'altro, allora non resta che conoscere, studiare. Ma chi studia oggi per esempio in Italia le religioni? Non le studia nessuno, perché o fai catechismo o vai in moschea, però allora si ritorna al discorso, diciamo, di professare una fede. Ma studiare per esempio a scuola, noi avremmo un'opportunità all'ora di religione. Esatto. Avremmo anche delle opportunità, secondo me anche all'università ci dovrebbero essere, cioè a scuola che all'università bisognerebbe trovare degli spazi per diciamo favorire un pluralismo religioso, cioè per far sì che i ragazzi insomma si abituino a pensare che anzitutto non esiste solo una religione, che ci sono diverse religioni, quali sono che le sono collegate tra loro, per esempio, che una viene prima e una viene dopo, che ci sono delle affinità, che ci sono delle differenze, già cominciare per esempio dall'ebraismo e cristianesimo, quali sono le affinità, quali le differenze, anche per riflettere, pensare semplicemente che sia soltanto un cumulo di dogmi, secondo me è anche fra l'altro pericoloso. Perché è pericoloso? Beh, perché si va semplicemente solo allo scontro, quindi se qualcuno dice questa è la verità, è il mio dogma, punto e basta, io non posso ribattere. E io credo, e un punto che mi sta molto a cuore è questo: le religioni fanno parte della cultura, cioè non sono non devono essere intese come qualcosa, cioè come un corpo estraneo per necessario, ecco, fanno parte della cultura. Si può benissimo essere atei e laici, ma secondo me le religioni fanno parte della cultura ed è giusto anche studiarle. Faccio un esempio, mi scusi, di come a volte la mancanza di conoscenza porti a schierarsi di nuovo, no? Porti un po' nell'area del fanatismo. Per esempio, tutte quelle persone che si sono appassionate alla vicenda del crocifisso o del bisogna festeggiare le feste di Natale, che è la più importante forse festa della religione cristiana cattolica, nelle scuole non possiamo farne a meno, anche persone che poi non vanno in chiesa, non gliene frega nulla, addirittura magari non sono credenti se non solo formalmente, ecco che ci si schiera di nuovo, no? Ci si scontra. Appunto, oltretutto secondo me c'è anche da dire che c'è anche un laicismo, c'è anche un modo di essere laici, dove però chi è laico poi alla fine fa parte del cristianesimo, per esempio in Italia, del cattolicesimo, quindi comunque condivide quella cultura, e pur professandosi laico poi, ecco, quando è il momento di Natale è pronto ad andare in piazza per scendere per cantare Tu scendi alle stelle, è una cosa, ecco, sbalorditiva, queste sono le cose, me molto sbalorditiva, secondo me comunque sbagliate, no? Senta, ma perché noi... perché creano diciamo dei muri, sarebbe molto più sensato, più saggio invece studiare e anche andare ai testi, fare un'ermeneutica dei testi, imparare a interpretare i testi, perché quella è la via contro il dogma. Mm. Torno alla questione dell'ora di religione, sarebbe attuale una riforma che per una, alla fine portasse a questo, cioè a non insegnare più l'ora di religione con insegnanti selezionati dalla curia, dalle, quindi dal clero italiano, ma un'ora di storia delle religioni, sarebbe quanto mai attuale, perché invece non... Questa cosa non è all'ordine del giorno. Assolutamente attualissimo, e secondo me è proprio la cosa che bisognerebbe fare. Bisognerebbe farlo, perché poi comunque noi ci troviamo ormai, chi frequenta, diciamo, le scuole, chi frequenta le università sa benissimo che questo già esiste, che i ragazzi, ci sono ragazzi, io per esempio nelle mie lezioni, ragazzi di tre religioni differenti, e io cerco di farli dialogare, di e ogni volta di riandare anche i testi, di interpretarli. Quindi storia delle religioni è importantissimo, ed è importantissimo anche appunto capire quali sono le differenze e le affinità, almeno tra le tre grandi religioni monoteiste, ma anche naturalmente aprendosi anche ad altre, come dire, correnti religiose, no? Io dico agli ascoltatori che stanno scrivendo dei messaggi: ancora parlate di religione, il XXI secolo, ma chi se ne frega, eccetera eccetera. Beh, insomma, non siamo noi che ci interessiamo alla religione, è la religione che si interessa a noi, mi sembra che, insomma, di penso che sia un modo sbagliato di vedere la religione, sì, cioè di vedere la religione in modo appunto come qualcosa di come un oscurantismo, no? Come se la religione non facesse parte della nostra cultura. In realtà religio proprio in latino vuol dire legame, cioè è un legame con la tradizione, quindi che noi lo vogliamo o no, la religione fa parte della nostra cultura, fa parte appunto, come si diceva all'inizio, anche della sfera pubblica, non solo di quella privata. Da risposte a molte domande importanti, certo. Già soltanto un esempio: il nostro tempo è diviso in una settimana, ma perché? Oppure abbiamo un settimo giorno che nel cattolicesimo è la domenica, in cui ci perché ricordiamo. Me lo dica lei, perché è diviso in sette giorni? Beh, perché la settimana è appunto il tempo, per esempio, ebraico, sì, no? E quindi noi abbiamo diciamo ereditato dalla Bibbia, dalla Torah, una scansione del tempo, quindi che lo vogliamo o no, questo fa parte della nostra tradizione, del mondo in cui viviamo. Quindi religione non è semplicemente credere o non credere in Dio, è appunto essere consapevoli di vivere in un mondo secolare e secolarizzato, dove c'è una secolarizzazione a partire però da categorie religiose. Già soltanto la settimana è una scansione del tempo religiosa. Quindi non sapere queste cose, a mio avviso, è una carenza. Quindi avere un concetto così, chiamiamolo illuministico, della religione, io credo che sia anacronistico, cioè che faccia parte veramente, come dire, del passato. Non ce lo possiamo più permettere, andiamo verso un mondo dove le religioni da almeno 10 anni sono, c'è un ritorno delle religioni, lo vediamo ogni giorno, molto, molto, diciamo, marcato nella sfera pubblica, nella sfera anche politica, e quindi io credo che veramente questo sia indispensabile, insomma. Un percorso di storia delle religioni al posto dell'ora di religione, una riforma secondo me quanto mai attuale. Grazie Donatella Di Cesare, grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. Ci fermiamo, torniamo tra un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Uptown funky up. Uptown funky up. Cause Uptown funk don't give it to you. Cause Uptown funk don't give it to you. Don't believe me, just watch. Cari ascoltatori, voi siete affezionati all'ora di religione, all'insegnamento dell'ora di religione nella scuola, oppure siete d'accordo anche voi che si dovrebbe una riforma quanto mai attuale per capire e stare più dentro ai tempi che corrono una bella ora di storia delle religioni? Nunzio da Roma, buonasera. Buonasera. Prego. Chapeau per questa intervista e per la sua proposta, perché da ateo convinto la condivido al 100%. Perché mi sembra una delle proposte. Sì, perché insomma anche un ateo, anch'io sono fondamentalmente, diciamo, ateo, però credo che, cioè, girare la testa dall'altra parte e basta non serva, no? No, no, non serve, bisogna conoscere per avere poi stima, rispetto per gli altri modi di pensare, insomma. È una battaglia che faccio anche io nel mio piccolo, questa di cercare di diffondere, anche se non... Se non credo nelle religioni, però se uno crede nelle religioni è giusto che si conoscano tutte le religioni. Purtroppo nelle scuole, per esempio, chi fa questa proposta, chi fa questa scelta, viene visto un po', dobbiamo dire la verità, come un marziano, no? Perché comunque si dice, no, ma l'insegnante di religione in realtà parla dei valori, dell'amicizia, però poi parla di Gesù bambino e non parla, che ne so, di Buddha, e non fa storia delle religioni. Non parla... Per un'esperienza personale, poi si usciva dalla classe dopo la seconda ora, diciamo, nel senso... Potevi sentirlo dal primo giorno, il secondo giorno, il terzo giorno, si esce già dalle medie, si esce dall'aula, insomma, ecco. E non si apprende neanche quella che è la religione cristiana. Cioè, gli studenti si tende a non stare ad ascoltare. Magari spaziando con più religioni magari potrebbe essere più interessante, magari, come dire, far seguire di più anche quell'ora e non... E io lo consideravo e lo considero tuttora un obolo alla Chiesa Cattolica, cioè nel senso alla... Beh, certo, è concordato, così come è stato modificato poi, eccetera, negli anni '80, eccetera. Comunque io chiamavo, sì, essendo un talebano a 5 stelle, e ho votato per l'altro giorno per la fucsia, per l'espulsione. Ha votato sul sito online? Sul sito, sì, io voto. Quanti avete votato in quel caso lì? Si sa? 26.000 persone. Quanto? 26.000. 26.000 persone. Dovremmo pian piano di essere di più. Guardi, io credo che questa... diciamo, questa polemica che fanno gli altri deputati, gli altri, credo che sia dovuta al fatto che loro hanno il terrore che prenda piede questo modo di poter buttare fuori il politico non dopo 5 anni di mandato, ma bensì durante il mandato. Non dico buttato fuori così tanto per buttare fuori, perché con la Fucci c'è stato tutto un percorso che io ho seguito, è molto ampio, non sto qui a dilungarmi. Però la possibilità del recall, cioè il vincolo di mandato, che se tu non sei più di quel partito, io non dico del 5 Stelle ma anche del PD, quanti del PD avrebbero voluto votare per cacciare via alcuni deputati che non rispettavano più il programma sottoscritto nel 2013. L'unica obiezione, Nunzio, l'unica obiezione che io ho fatto anche a Toninelli parlando, lui ha detto non è così, che la Fucci ha detto io non sono l'unica a non avere rendicontato, a me però mi mandano via e agli altri invece no. Ci sono stati 4 avvisi. Allora, prima di cacciare via la Fucci, ci sono stati 4 avvisi, uno il 3 dicembre, uno l'8 dicembre, uno il 4, adesso mi ricordo di preciso le date, e l'ultimo è stato il giorno prima, e lei non aveva rendicontato. Ma il problema non è neanche quello, è che tu non stai seguendo quello politico di cui parliamo, quello è quello economico, poi quello politico è che tu non sei più in sintonia col Movimento 5 Stelle. Allora, io, se fossi stato un deputato 5 Stelle, non essendo più in linea, mi sarei dimesso, e non passare con tutti gli altri, ma anche se fossi di Forza Italia. Cioè, ci deve essere la dimissione e non il passaggio al gruppo misto, perché tu sei stato eletto per un programma e non credo che sia corretto nei confronti del tuo elettore rimanere ancora lì con un altro modo di pensare. Questo, io farei un'altra proposta di legge per il vincolo di mandato che potrebbe essere un qualcosa per moralizzare molto di più questa politica che sta andando. Grazie Nunzio, buona serata. Grazie. Grazie a lei, buona serata. Titoli del TG1. Emergenza smog, piano del governo, riscaldamenti giù di 2 gradi, limiti a velocità auto, fondi ai comuni. Ma non sono bastati il blocco a Milano e le targhe alterne a Roma, si spera nella pioggia dopo Capodanno. Renzi, dopo l'immobilismo finalmente si agisce, nel 2016 faremo di più sul referendum, mi gioco tutto. Apple pagherà 318 milioni di euro di imposte arretrate, fatturava in Irlanda le vendite fatte in Italia. Parigi, attentati coordinati dal Belgio via SMS, trovato il telefonino dell'ultimo messaggio prima della strage. Sicurezza e controlli nelle piazze, maxi sequestri di botti illegali a Varese, gravissimo, giovane ferito da petardo. Tra poco su Rai 1, dopo Affari Tuoi, serata speciale dedicata a Tiziano Ferro che racconta la tournée del 2015, anticipa i progetti del nuovo anno e al TG1 dice è un racconto dell'anno. Abbiamo Giada da Pordenone, ma fatemi ricordare anche che insomma sarebbe bello che ci chiamaste per raccontarci qual è la vostra più bella, secondo voi, la più bella notizia del 2015, che insomma vogliamo non dimenticare tanto in fretta e portarcela nel 2016. Giada, buonasera. Allora, buonasera. Io chiamavo insomma in merito al discorso riguardo ai matrimoni, insomma, sì, ai matrimoni anche delle coppie gay, riguardo un po' alla visione che secondo me bisognerebbe avere. Dal mio punto di vista, noi comunque viviamo in uno Stato che è laico, è una Costituzione che parla chiaro e dice che le persone sono uguali di fronte allo Stato in tutto, per sesso, per religione, per razza. Di conseguenza io non vedo come mai ci debba essere questo inquinamento cattolico per quanto riguarda quello insomma che riguarda i matrimoni civili. E non vedo perché due persone anche dello stesso sesso non abbiano diritto di avere lo stesso identico insomma stato, lo stesso identico diritto di coppia. Ma se si chiamasse unione civile non andrebbe bene secondo lei? Ma secondo me non è il nome col quale sì, ecco, infatti ho capito male. Va bene che cioè la sostanza è quella che conta. Lei è dice la sostanza è quella che conta, cioè due persone che siano omosessuali, sì. Poi non mi divago sul discorso dell'adozione o meno, perché poi si farebbe una. Io parlo esclusivamente delle unioni civili. È giusto che lo Stato garantisca alle coppie omosessuali gli stessi identici diritti che garantisce alle coppie eterosessuali. Che poi una persona omosessuale non si possa sposare in chiesa, questo è un altro discorso, fa parte di un rito, certo, fa parte, certo, di una religione. Se sei dentro la Chiesa Cattolica devi sapere che quelle sono, diciamo, esatto, dire, le regole di ingaggio. Altra cosa possono... è l'ambito pubblico, l'ambito civile. È, sì. Esatto, è la cosa pubblica e civile. Poi volevo aggiungere una piccola cosa riguardo alla signora che aveva chiamato prima per quanto riguarda la religione in sé. Allora, innanzitutto, lasciamo perdere l'italiano molto forbito, però ricordiamoci che i giorni della settimana non derivano di certo da un discorso ebraico, ma derivano da un discorso pagano, non per niente si chiamano lunedì, martedì, mercoledì, sì, hanno questi nomi. Luna, Marte, ma vedi però, vedi Giada, esatto, che è proprio questo che dico io, cioè è bello saperle queste cose, affrontarle, esatto, conoscerle, studiarle, fare i confronti tra le tradizioni e non, esatto, alzare muri e dire ho ragione io e ragione tu. Perché questo... rendersi conto che se una persona fa degli studi approfonditi, sì, si viene a scoprire che cristianesimo e cattolicesimo sono due cose ben diverse. Il cattolicesimo ha assorbito tantissime cose pagane, ricordiamoci, basta pensare anche al crocifisso, basta pensare, se uno studia un po' la Bibbia, come diciamo ha detto prima la signora, ci sono tante cose che non corrispondono. Il Natale non viene festeggiato della Bibbia, non viene detto il nome e il giorno nel quale è nato Gesù, quella è una festa che è praticamente pagana. Dunque, ognuno ha diritto di credere in quello che vuole, ma se bisogna fare una conoscenza delle religioni, bisogna approfondirle veramente. Io credo che la proposta sarebbe largamente maggioritaria, azzardo questa ipotesi, sostituire l'ora di religione con un'ora di storia delle religioni, però magari potessi mi sbaglio. Grazie. Gianni da Torino, buonasera. Beh, qui ci sono aggiunte un sacco di cose, dunque io avevo telefonato per il discorso dell'inquinamento. Sì. Allora, qui noi non abbiamo una minima coscienza ecologica, perché si comincia, se si guarda anche solo davanti alle scuole, sono battaglie che io ho cercato di fare in passato con i vari genitori, cioè ci sono centinaia di migliaia di genitori che accompagnano i figli, li vanno a prendere e stanno magari 10 minuti con i motori accesi davanti alle scuole, già quella è una prima cosa. Non vengono più lavate le strade, quindi le polveri sottili, come diceva giustamente chi viene fatto al nord, rimangono sul fondo. In compenso abbiamo abolito gli spazzini, abbiamo introdotto quegli operatori che girano con i soffiatori per spostare foglie e tutto il resto, che alzano delle nuvole, sparano in aria, quello sì, quello sì. Però ci sono anche i mezzi che aspirano, quelli sì, quelli servono, quelli che, però non, cioè, non passano sulle strade. Le strade una volta venivano lavate un po' di tempo fa, quando forse eravamo un po' più indietro. Il famoso lavaggio strade, che quello serve a togliere proprio le schifezze che ci sono, sì, soprattutto quando non piove. Se no poi arrivano poi gli alluvioni, vabbè, tutta la schifezza viene portata poi nei mari. Mangiamo quello che mangiamo e facciamo i centri anticancro, non facciamo le raccolte contro i tumori. Mi permetta solo, sì, una battuta prima sulla quanto riguardava la signora Cirinà. Signora Cirinà è favorevole, cioè combatte contro il fatto di togliere i cani ai cuccioli, una sacrosanta battaglia, giustissimo, perché poi questi cuccioli vengono venduti. Peccato che non si renda conto che con quello che lei sta cercando di introdurre in Italia verrà introdotta la possibilità anche in Italia di poter togliere poi i bambini alle mamme, cosa che viene fatta purtroppo, cioè, o meglio, per fortuna, solo in una ventina di paesi al mondo, quelli cosiddetti più civilizzati, adesso si dice, ma non lo so, insomma. Quindi questa è la, grazie, prima cosa. Grazie Gianni, buona serata. Ciao. Maurizio dalla provincia di Monza. Sì, buonasera. Buonasera a te, buonasera a tutti gli ascoltatori. Prego. Dunque, una considerazione molto semplice che mi è arrivata in testa sentendo l'intervento di un ascoltatore, credo fosse Massimo. Comunque era l'ascoltatore che parlava della non necessità di una legge. Sì, era abbastanza infogliato contro questa cosa qua, sì. Ecco, io ho fatto una considerazione molto semplice, sì. Sono padre di famiglia, felicemente sposato, con due figli, non penso che potrei mai innamorarmi né avere attrazione per una persona del mio stesso sesso. Questo però non mi autorizza a essere così violento da impedire che altre persone possano essere felici. Tu sei uomo e vuoi sposare un uomo, sei donna e vuoi sposare una donna, ma fallo, ma sii felice. Ma perché io che sono felice devo impedirlo ad altre persone? E mi viene in mente lo spessore umano, morale, culturale del nostro, ad esempio, ministro dell'interno. Ecco, lui è felice, spero per lui, con la sua famiglia, ma non vuole che altri siano felici. Perché sono omosessuali, capisci? Questa è violenza. La violenza non la fai soltanto con le armi, la fai anche impedendo ad altre persone di essere felice. Scusami, sì, sono come quelli che dicono: ma a me mi farebbe schifo baciare un altro uomo. No, ma non devi mica farlo tu. Lascia che lo stiano gli altri. Ma devi farlo tu, ma cioè, scusa, io non lo farei mai. Ma perché devo impedire ad altri di farlo? Ma perché? Oppure, siccome a me fa schifo, non voglio vederlo. Insomma, cavoli tuoi, gira la testa dall'altra parte. Se ma fallo schifo. Tu, ma sai quante cose mi fanno schifo? E infatti non le faccio. Non è che devo fare tutto, no? Mi fa schifo, non lo so, mi fa schifo il risotto con lo zafferano, che sono milanese. Non lo mangio. Grazie. Bene. Maurizio, buona serata. A te, ciao. Claudio La Foggia. Sì, buonasera. Buonasera. Volevo intervenire, come ho detto a chi ha preceduto sulla telefonata, chi mi ha preso la telefonata, sì, che è un'assurdità sentire dei ministri, un ministro che dica che andando più piano con l'autovettura si possa inquinare di meno. Non riesco a capire com'è possibile che il ministro non si faccia consulente, un professore universitario che gli possa insegnare qualche cosa. Cioè, chiunque compri una rivista tipo Quattro Ruote può sfogliare qualche argomento sui motori, si vede che il rendimento di un'automobile, sì, si trova fra il massimo della coppia e il massimo della potenza. Quindi quando si va per esempio in autostrada, fu giusto una volta dire che non si deve superare i 130 km all'ora perché poi si inquina troppo. Quindi con una macchina, con un'autovettura, se ci si mette più o meno a un numero di giri del motore, al 50% del numero di giri, sì, massimo del motore, il motore va a 5.000 giri massimo, cioè, se si mette a 2500 giri, si può vedere che in autostrada si va su 110 all'ora, che il rendimento migliore per quel motore, per quella ma l'inquinamento com'è andando? Quindi, a metà, se si va a velocità più bassa, sì, il rendimento dell'autovettura diminuisce. Quindi se io anziché andare a 110 vado a 90 km all'ora, il mio motore funziona male. Va bene, Claudio, questo chiaramente poi si entra in un aspetto anche tecnico, no? In cui io non ho alcuna competenza, però ripeto, basta usare un po' la logica. Se non è servito per 3 giorni fermarle le macchine, lasciarle proprio ferme nei parcheggi, cosa può servire farle andare leggermente meno veloci? Io non ci arrivo, ma può darsi che sia io. Giorgio da Roma, buonasera. Buonasera a tutti. Prego. Volevo dire, allora, secondo me qual era la notizia da ricordare nel 2015? Qual è? Il 2015. Finalmente uno ascoltatore che mi dà soddisfazione. Vai Giorgio. La scelta del Partito Conservatore inglese di dire sì ai matrimoni tra omosessuali. Quindi la notizia è proprio la scelta dei conservatori, che hanno fatto quindi un passaggio che per loro non era scontato, di dire sì ai matrimoni gay. Esatto, una sorta di diciamo una conversione quasi. No, più che una conversione è diciamo, ci hanno dimostrato di essere più, diciamo, più aperti di noi, cioè il diritto è nato in Italia, ma sembra che gli inglesi lo conoscano meglio di noi. Grazie Giorgio. Ciao, buonasera. Salve. Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ascoltatori scatenati sui 7 giorni della settimana. Giusta l'origine ebraica, dice Alberto. I nomi romani vengono dopo. No, il numero dei giorni della settimana deriva dal libro della Genesi, dove Dio creò il mondo in 7 giorni, scrive Ulisse. E vedete che dimostrate insieme a me che c'è bisogno proprio di studiarle le religioni tutte, conoscerle. E non professarne soltanto una, perché fermarsi a una? Conosciamole tutte. Titoli, TG La 7. Riduzione di 2 gradi per il riscaldamento degli edifici e di 20 km l'ora la velocità in città per le auto, sconti per la mobilità pubblica. Queste le principali misure annunciate dal Ministro dell'Ambiente per combattere lo smog, saranno adottate dai sindaci dopo 7 giorni consecutivi di sforamento dei limiti inquinanti. In Belgio è sempre più come crocevia dei terroristi dell'ISIS in Europa. I verbali dell'inchiesta sugli attacchi di Parigi rivelano che i 3 comando in azione la sera del 13 novembre erano coordinati via SMS proprio dal Belgio. Allarme terrorismo in Turchia e Stati Uniti. Ad Ankara arrestate 2 persone in possesso di cinture esplosive. Nuova protesta dei risparmiatori di Banca Etruria. Il sit-in si è spostato oggi a Civitavecchia, la città del pensionato che si è suicidato un mese fa. Il Codacons invita i risparmiatori a presentare un ricorso al TAR del Lazio, mentre il presidente delle nuove 4 banche annuncia un'azione per chiedere il risarcimento ai vecchi amministratori. Un messaggio rivolto a tutti gli italiani e non politico. Sergio Mattarella sta preparando il suo primo discorso di fine anno da Presidente della Repubblica, tra temi che il Capo dello Stato dovrebbe trattare la solidarietà, il dialogo e la fiducia per un paese in ripresa, anche se ancora troppo timidamente. Ma segnali estremamente positivi per la compravendita del mercato arrivano appunto dal mercato immobiliare. Secondo i dati dell'Istat, nell'ultimo trimestre dell'anno crescono dell'8,4% rispetto allo stesso periodo del 2014, benissimo anche i mutui che nello stesso trimestre segnano un incremento di quasi il 30%. Sentano che non cambierai più quelle notti fra cosce e zanzare, nebbia e locali a cui dai del tu. Certe notti c'hai qualche ferita che qualche tua amica disinfetterà. Certe notti coi bar che son chiusi al primo autogrill c'è chi festeggerà. Della serie idee originali per passare il Capodanno, l'Oscar quest'anno lo vogliamo dare ai ragazzi di Rovigo che si sono dati appuntamento in un autogrill, anzi per l'esattezza l'autogrill Adige Est di Rovigo, solo che l'iniziativa pubblicata su Facebook ha avuto talmente tante adesioni che è dovuta intervenire la polizia bloccando più o meno tutto. Ecco noi Fulvio Cavicchi, uno degli organizzatori. creatori di questo Capodanno in Autogrill. Fulvio. Buonasera. Ciao Fulvio. Cosa avete combinato? In realtà non è quello che volevamo. Beh, no, questo non lo so, perché potrebbe anche essere una abileissima strategia di marketing in realtà. No, allora ve lo dico molto onestamente quello che è successo. Sì. Semplicemente io con la mia ragazza e un'altra coppia di amici diciamo: cosa facciamo a Capodanno? Un classico. Classico, no? Sì. Andiamo qui, andiamo là, a un certo punto andiamo in piazza Rovigo, ma prendiamo freddo, a questo punto andiamo a mangiarci una rustichella all'autogrill. La rustichella, però scusa, adesso poi ti faccio proseguire, ma è bella l'idea dell'autogrill, perché è un posto, simboleggia il viaggio, no? L'incontro, la scoperta, oppure c'era anche un po' la voglia appunto di spendere poco, cioè di mangiare spendendo poco, la rustichella, un Capodanno low cost. In realtà l'abbiamo poi venduto come Capodanno low cost. No, per fortuna non siamo messi che dobbiamo risparmiare sulla singola cena, però lì era che non sapevamo cosa fare e abbiamo detto: facciamo qualcosa di diverso, no? E abbiamo Zorza, la mia ragazza, ha creato questa l'evento pagina su Facebook. Ma era per noi quattro, Come si fa per tanti eventi, tra l'altro, cioè, e tra l'altro devo dire, non è la prima volta che degli eventi prendono prendono la mano ai loro stessi organizzatori. È successo anche altre volte. A voi, al punto di arrivare a quanti like? Adesso dovremmo essere almeno a 17.000 che hanno confermato la presenza e quasi 30.000 che sono interessati. Cioè 30.000 interessati, 17.000 che hanno confermato la presenza. Ovviamente non tutti sarebbero disposti o hanno messo parteciperò essendo consapevoli di partecipare. Ma pensate anche se sono una parte lo facesse veramente, all'Autogrill ADG Est si potrebbero presentare 2-3.000 persone. Ah sì, lo sappiamo, infatti è questo che poi ha fatto preoccupare le forze dell'ordine. Per questo che lunedì siamo venuti andare alla questura di Rovigo. Ma siete andati voi alla questura? Sì, siamo. Ma vi siete preoccupati voi stessi? Avete avuto. Sì. So che tutti i giornali l'hanno messa con la questura, ha chiamato gli organizzatori, sì. E tutti sono convinti in giro su Facebook che ci hanno detto di ogni, ci hanno fatto tanto male. La cosa più probabile è che l'ispettore Zenigata ci abbia lasciati fuori per evitare che organizzassimo qualcosa dentro al carcere. Zenigata non è male. No, lì specialmente abbiamo chiamato per dire: scusate, è successo tutto questo, cosa sì. Facciamo? È un problema, perché sappiamo che bisogna denunciare. Il discorso è: noi non abbiamo mai creato un evento, quindi non è che ci sarà animazione, non ci sarà da mangiare. Non c'era niente, non c'era proprio niente, c'eravate solo voi quattro. Sì, in teoria era così. In realtà siamo adesso, ho guardato, 18.900 al momento confermati. È la miseria. Ma come te lo spieghi? Scusa, ci hai pensato, Fulvio? Come te lo spieghi questo tam tam? Allora, è un po' di mesi che va molto di moda il creare eventi per ridere e il 99% di questa gente l'ha presa così. Sì. Quindi infatti molti adesso sono inalberati quando postiamo tutti gli articoli sui giornali che escono, tutti dicono: ah, ma la questura non ha di meglio da fare piuttosto che occuparsi di questo. In realtà è che è vero, se si presentano 200-300 persone forse ancora quel piccolo autogrill se la può fare, di più è un disastro. Però assoluto. È vero che il direttore dell'autogrill, insomma uno dei responsabili, vi ha detto: no, guardate, per noi non c'è problema, anzi, perché magari gli fate fare pure il super incasso. È vero, è stato lui il primo che abbiamo chiamato, sì. Appunto, perché l'abbiamo chiamato e lui l'ha presa molto in ridere, dice: ma sì, tanto chi vuoi che venga, no? Venite almeno voi, che così ci facciamo il brindisi assieme. Quindi lui ci ha invitato, noi quattro andremo. Fulvio, ecco, voi andrete, ma a questo punto c'è la questura, che cosa ha detto ufficialmente? Cioè c'è un divieto? No, non ci può essere un divieto. Non ci può essere un divieto, ma ci ha dato come compito il convincere la gente a dire: non venite. Ah, quindi adesso noi dobbiamo dire: ascoltatori, mi raccomando, non andate all'autogrill ADG Est di Rovigo, l'ultimo dell'anno, perché non c'è un perché. Perché non c'è spazio. Non c'è spazio, ecco, si resta fuori, è come alle feste, no? Esatto. Si resta fuori. Ma scusa, ma l'anno scorso cosa avete fatto a Capodanno? Perché L'anno scorso è stata una cosa la più semplice del mondo, a casa qualche amico, e ma infatti il tutto è nato perché la mia ragazza ha detto: senti, l'anno scorso abbiamo fatto da noi, abbiamo dovuto preparare tutto, quest'anno proprio voglia di fare niente, facciamo la cosa più semplice del mondo, abbiamo giusto 19.000 invitati. Ma comunque io insisto, il Capodanno Autogrill è un'idea originale e affascinante a suo modo, perché è un luogo dove ci si ferma, è un luogo del viaggio, no? Ci si incontra, si possono fare anche degli incontri, perché no? È una cosa strana. Secondo me la cosa più bella è che finalmente abbiamo tolto tutto quello che c'era attorno alla questione della festa di Capodanno. Bisogna sempre andare in quelle più belle o nel ristorantone, nel mangiare bene, tutto quel contorno, e siamo tornati al... Ma sì, troviamo chi c'è, ridiamo e scherziamo. L'unica cosa, se brindate, andateci cauti, perché poi dopo dovete riprendere la macchina e mettervi in autostrada. Quindi questo sicuramente. Sì, un brindisi leggero. Noi siamo a Stemi, quindi il problema non c'è. Tutti gli altri siamo in Veneto. Naso lungo, vedo, stiamo a Stemi. Esatto. Va bene, insomma, complimenti, vabbè, perché per l'idea, ma poi complimenti anche a quelli che hanno messo like, perché hanno contribuito a creare un evento a suo modo, insomma, straordinario, particolare. Ciao, auguri. Auguri. Ciao da notti qui. Autogrill Adige Est di Rovigo, non andate però, non andate. Allora, Giovanni da Milano, buonasera. Buonasera. Faccio un piccolo inciso sulla persona che è intervenuta poco fa. Sì. Complimenti per l'idea, dovrebbe farci riconoscere una percentuale d'autogrill qualora l'evento si riuscisse a realizzare un domani. E una dimostrazione del fatto che siamo tutti controllati, perché la polizia postale o guarda Giovanni, ha detto Fulvio che sono stati loro ad avvertire la polizia, che non si era accorta di nulla, poi non so se in realtà è successo il contrario, ma non c'era nessun controllo questa volta. Può sembrare strano, perché uno dice: ah, ci studiano, stanno tutti lì con gli occhi puntati. Magari non sempre. Comunque, Giovanni, cosa volevi dire? Velocissimamente sull'intervento della professoressa di 20 minuti fa. Sì? Un piccolo inciso: attualmente, che io sappia, l'ora di religione credo sia ancora facoltativa. Lo è. E la conversione in studio storia delle religioni è un'iniziativa molto valida. Credo che sia stata anche proposta in passato, dovrebbe essere aumentata e perlomeno parificata quello che attualmente è filosofia, o meglio storia della filosofia al liceo classico. Sì, magari un'ora, due, non dico di studiare 10 ore di storia delle religioni, però un'ora alla settimana, perché no, per un tema così attuale, importante, poi per ognuno di noi, perché ripeto, uno può anche essere ateo, non avere fede, però poi arriva un momento nella vita in cui sicuramente ti interroghi e ti interessi, se non altro perché i giornali sono pieni anche di queste questioni. Il secondo punto che volevo sottolineare si collega esattamente a questo, ovvero a mio avviso la professoressa ha utilizzato in maniera alternativa il termine laicità e laicismo con l'essere atei. Non sembra un ateo, cioè, o meglio, un laico può non essere ateo. Certo. Spesso volentieri nell'utilizzo che la professoressa ha fatto, se fosse eccepire qualche cosa, è stato un attimo frainteso, tenendo presente una cosa che a mio avviso la civiltà europea attuale, contemporanea, nasce, ed è un dato di fatto, dalla confusione della cultura pagana romana e l'avanzata del cristianesimo. La cultura dell'impero romano è crollata con l'avanzata del cristianesimo. Attualmente c'è un movimento, e credo che anche la professoressa faccia parte di questo movimento, in un mancante riconoscimento del nostro patrimonio storico di evoluzione di cultura europea, e si vada a fare, a mio avviso, un errore, ovvero la cultura romana è crollata con l'avanzata del nuovo movimento cristiano. Quello che invece si sta verificando adesso, c'è un disconoscimento delle nostre origini, e non per qualcosa di nuovo, ma semplicemente con una negazione del passato. In questa fessura, in questa crepa che si sta creando in noi stessi, nella nostra cultura, si sta incuneando una cultura molto più forte, perché molto più radicata e molto più legata al passato, che quella islamica. Giovanni, devo interromperti perché dobbiamo dare la linea alla borsa. Grazie comunque, buona serata, ciao. In questi giorni di festa regalatevi tutta l'informazione, l'intrattenimento e la passione di Radio 24. Buon ascolto. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, al 349-238-6666 all'SMS ci scrive un ascoltatore che dice: la velocità media calcolata in città è di 28 km orari. Cosa vogliamo ridurre? Fa ridere questa cosa qua, fa riderissimo, però io credo che purtroppo non siamo lontani dalla realtà, che sia proprio questo, c'è poco da ridurre. Andiamo con Nicola da Campobasso, buonasera. Buonasera. Prego. Dunque, vorrei, a proposito della professoressa di filosofia, bella l'idea della storia delle religioni. Io personalmente aggiungerei storia delle religioni e fra parentesi dell'ateismo, perché una persona dovrebbe avere la possibilità di approfondire le varie religioni, ma dovrebbe avere anche la possibilità di essere ateo. In un paese democratico questa dovrebbe essere, una scelta. Cioè lei dice di inserire, ma l'ateismo sì, può darsi che si possa inserire anche la storia dell'ateismo, perché no, insomma, però diciamo c'è già la filosofia forse come storia delle discipline filosofiche non religiose. Comunque emendiamo la proposta di storia della religione con la sua proposta. Silvia da Roma, buonasera. Buonasera a voi e grazie per avermi richiamato. Prego. Allora, io ritorno sul problema dell'inquinamento. Sì. Perché ho fatto un'esperienza personale e ho messo il fotovoltaico a casa mia. È stata un'esperienza piuttosto lunga e laboriosa. Quanto ci è voluto? Quanto tempo? Un paio d'anni. Avere tutti i permessi, sì, perché anche l'antisismica, la mia casa è di costruzione precedente alla legge antisismica. Non si è mai scoraggiata, Silvia, durante questi due anni? Non potevo demolirle e ricostruirle, insomma, è stata lunga. Alla fine ci sono riuscita. Adesso che ci sono riuscita, io ho sentito due notizie, mi hanno veramente lasciata un pochino stupefatta, ecco. Quali? La prima è che molto probabilmente un tecnico, non mi ricordo il nome, dice che o è allo studio questa legge oppure è già passata. Il valore catastale dell'immobile con il fotovoltaico aumenta, ossia quindi paga più tasse. Il che, insomma, non mi sembra. Sarebbe una beffa, sarebbe una beffa. Sarebbe ma chi l'ha detto questo? È allo studio, perché la riforma del catasto è in effetti allo studio. Dovrei informarmi meglio, sì. Però ho sentito. Cioè, lei dice, ho messo due anni. Lei dice, state lontani dai miei pannelli fotovoltaici. Ci ho messo due anni, ho investito del mio, adesso non mi fate che la casa costa di più e pago di più. Ho messo due anni, permetteli, adesso mi dite che aumenta il valore catastale, per cui devo pagare più tasse. Però guardi, lei dovrebbe pagarne di meno secondo me, perché un incentivo a comportamenti intelligenti, virtuosi. Anche secondo me. L'altra l'ho sentita proprio, un tecnico, l'ho sentito su Radio 24, un tecnico dell'Enel che spiegava che è allo studio, insomma, e probabilmente entrerà con le nuove bollette dell'anno nuovo, mentre prima il kilowattora se si consumava poco, aveva all'inizio, no? Poco, questa è una materia complicatissima, Silvia, sì. Le nuove tariffe, sì. E poi era progressivo, più si consumava a un certo punto, sopra un certo numero di kilowattora, aumentava il costo. Sì. Adesso sarà esattamente il contrario. Se uno consuma di più, spende di meno. Ecco, che allora, questo è un disincentivo, anche questa è una cosa che è stata detta giustamente, è stata sottolineata, detta, e bisognerà vedere, perché se è questa la previsione delle nuove tariffe, anch'io sono d'accordo che è sbagliata. Grazie Silvia, grazie, buona serata. Claudio da Lucca. Sì, buonasera. Buonasera. Salve, volevo ritornare sul discorso degli autogrill. Sì. Allora, ho sentito di questi ragazzi che fanno questa cosa, Adige Nord, mi sembra. Adige Est, l'autogrill Adige Est, a Rovigo, sì? Adige Est, sì. Simpatica, molto simpatica come cosa, secondo me. Però, secondo me, gli autogrill sono un luogo un po' asettico. Ma sì, sono un luogo, sicuramente sono un luogo un po' i non luoghi, però hanno il fascino che ci si ritrova tutti lì per la stessa ragione, si sta viaggiando. Sì, quando uno viaggia, vero, in genere, vero, ha un obiettivo. Sì, in Spagna, e là c'hanno sempre questi autogrill che uno si ferma, ci sono prosciutti attaccati, la gente beve la birra. Insomma, sono luoghi un po' diversi. Noi siamo un gruppo di ragazzi, adesso siamo vicino a Roma, sempre in autostrada, ci siamo appena fermati a un autogrill. Ci piace, insomma, fare un po' le zingarate, no? Come, sì. E cosa fate domani sera? All'autogrill? Anche voi, no? No, domani sera siamo a Malta. A Malta? E la miseria. A Malta. Sì. E come ci arrivate in macchina a Malta? Le nostre scorribande. Come ci arrivate in macchina? A Malta. Con l'aereo. Da dove? Da Ciampino. Di dove sei, sì. Claudio? Di Lucca. Va bene, Claudio, hai chiamato per questo, per darci il tuo itinerario? Va bene, siamo no, a 36. No, io chiamato per dire che noi abbiamo scritto una canzone sugli autogrill e potrebbe essere una bellissima colonna sonora. Cantacela un attimo. Ce la puoi accennare? No, c'è su YouTube. Ma accennacela, scusa, Claudio. Non ci lasciare così nel vuoto. Accennala, almeno un passo. L'accendo, sì. E vi racconto un po' il testo. Che questi autogrill c'hanno i panini che costano come assassini. E sullo sfondo ci siamo noi con un panino con la salsiccia, una peroni. I panini, diciamo, che costano come assassini. Non è male. Però la melodia. La melodia non ce la fai sentire. No, la melodia è meglio di no. No, infatti. Va bene, grazie, Claudio. È tipo uovo il garotta. Comunque la trovate su YouTube, autogrill di merda. Ecco, punto, vedi. Grazie Claudio, buona serata. Panini cari come assassini, però è un bel inizio per una canzone, secondo me, pensando all'autogrill. Italo da Bari. Da Canosa, precisamente. Da dove? Canosa. Vabbè. Ex Bari. Sì. Diventata Bari. Dai, noi andiamo con le città, poi, diciamo, con le province, ma anche se fra un po' non ci saranno più, quindi... Perfetto. Sì. Allora, secondo me la notizia più bella è quando sono andate in finale le nostre due regine del tennis. Le due pugliesi. Certo, come no. Non è vero. C'è notizia più bella di quella. Beh, per lo sport è una bellissima notizia, in effetti. No, per lo sport, per l'Italia proprio, ha portato l'Italia agli allori. Sì, va bene. Quindi, Italo, grazie per questa segnalazione. È un po' questo che chiedevo agli ascoltatori. Ci state arrivando un po' tardi a rinverdire un po' le notizie di quest'ultimo anno, in modo anche da riviverle e da portarci dietro anche qualche emozione positiva tra tutte quelle anche negative che abbiamo vissuto. Elena da Parma, buonasera. Buonasera. Sì. Per me la notizia più bella del 2015 è stata la guarigione di una bimba di 10 anni dalla leucemia, dopo aver avuto il trapianto. Immagino, accidenti, sì. Complimenti, anzi, e un abbraccio per questa vicenda. Io stasera ho invitato a raccontare notizie, diciamo, notizie vere, non tanto sul piano personale, cosa che era avvenuta di più ieri, e avevamo già premiato degli ascoltatori, però accogliamo anche questa di Elena. Marco dalla provincia di Lecco, buonasera. Sì, buonasera. Prego. Senta, io avevo telefonato perché ho ascoltato la professoressa che parlava di religione prima. E a mio modo di vedere proprio si è dimenticata che esiste una cosa che si chiama educazione civica e Stato, cioè lo Stato è un patto sociale. Sì, ma perché si è dimenticata dell'educazione civica? Forse le scuole si sono dimenticate dell'educazione civica, che non si insegna più. Esatto, sì. Non si insegna più. Sì. Cioè lo Stato è un patto sociale. Però guardi, è una cosa diversa, Marco. Cioè, un conto è l'educazione civica, che forse non si insegna più ed è un peccato. E un conto sono le religioni. Sì, però ecco, io vorrei far notare che in Giappone o in Cina la sensibilità verso tutto quello che non fa parte di quello che è la loro cultura, tradizione o perlomeno il loro modo di essere stato è quasi nulla, e nessuno può dire che in Giappone vivano male, o per esempio in America Latina, che è il continente più multiculturale. Però faccio fatica a seguirlo questo paragone, faccio un po' di fatica. Allora, noi dobbiamo partire dal presupposto che lo Stato decide delle regole di civiltà. Ma non c'è solo lo Stato, Marco, è questo il punto. C'è anche una dimensione spirituale. Persone che si interrogano, no? E persone che sono ammaliate invece dalle religioni e sulla base delle religioni muovono le loro scelte. Allora, forse è giusto parlarne, conoscere, studiarle, conoscere. Da qua la proposta. Io credo che la questione dello Stato, che dice lei, certo, lo Stato cinese è protagonista di uno sviluppo, per esempio, economico poderoso, ma che c'entra con bisogno di spiritualità, però? Niente. No, però rimane il fatto che loro non hanno problemi che in questo momento sta avendo l'Occidente, come non li ha l'America Latina. Ne hanno altri, va bene, comunque grazie, okay, Marco. Prego, salve. Buona serata. You walk around here like you wanna be someone else. Ooh, oh, oh. I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. Ooh, oh, oh. Oh, girl, I'm gonna show you when you're mine. Con noi il direttore del Museo Nazionale d'Abruzzo, Mauro Congeduti. Buonasera. Buonasera a lei e buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Un museo, il Munda, che ha riaperto da pochissimi giorni, dopo essere stato chiuso per anni per via del terremoto di 6 anni fa. Da quanti giorni avete riaperto? Dal 19 dicembre. È stato inaugurato dal ministro Dario Franceschini. Ecco, quindi esattamente una decina di giorni fa. Ma quanto tempo però ci è voluto per riaprire? 6 anni? Allora sì, ci è voluto molto tempo perché l'edificio nel quale è stato localizzato, diciamo, l'edificio scelto come sede provvisoria di una parte delle raccolte museali è in realtà l'ex mattatoio comunale dell'Aquila, quindi è stato necessario un lavoro di progettazione che ha preso l'avvio nel 2010 e l'esecuzione dei lavori è cominciata nel 2012. Del resto, di cosa stupirsi se per esempio per molti dei comuni colpiti dal terremoto, ho letto che solo qualche giorno fa sono stati approvati i piani di ricostruzione per queste città. È incredibile che dopo 6 anni stiamo ancora a questo livello. Adesso magari anche di questo parliamo con lei, perché comunque è una buona notizia. Noi siamo felici che all'Aquila si riparta e tra l'altro avete avuto un buon riscontro anche di visitatori, no, nei primi giorni. Beh, veramente un riscontro inatteso, siamo già oltre i 4.000 visitatori in pochissimi giorni, anche considerando che ci sono stati 2 giorni di chiusura, cioè il giorno di Natale e il lunedì, che è il giorno che tutti i musei d'Italia, almeno i musei statali, sono dedicano più alla manutenzione delle pulizie. Certo. Ma più turisti stranieri fuori regione o più aquilani che finalmente hanno potuto rivedere il loro museo, le opere che ci sono dentro? Molti turisti e moltissimi aquilani. Gli aquilani chiaramente hanno un legame affettivo con queste opere, ovviamente, e leggendo il registro delle firme dei visitatori si leggono molti commenti che toccano veramente la coscienza, ecco, cioè persone entusiaste, certo, che interpretano di rivedere questo fatto come un simbolo di una pezzo, rinascita, certo, che è in corso, un pezzo della loro città che rinasce. Dentro si può ammirare tra l'altro la Madonna e Santi Giovanni Paolo Cardone, oppure Cristo Deposto, oppure... Allora, lei ha nominato proprio le opere più danneggiate dal sisma tra quelle che sono esposte. Il Cristo Deposto di Penne è una scultura lignea del XIII secolo che ha subito un violentissimo impatto con il suolo proprio in quella tragica notte del 6 aprile 2009 ed è stato accuratamente restaurato nei laboratori dell'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro del nostro Ministero. Mm-hmm. Ci sono poi anche altre opere belle, Solimena, Cerruti. Opere ovviamente non erano, non sono state danneggiate, per fortuna. Ecco. Sì. Diciamo, elencarle tutte è impossibile, posso Possiamo fare lavoro, ecco sì, magari qualcuno il trittico di Beffi, un dipinto a tempera su tavola fondoro dei primi del 400, che è stato ambasciatore dell'Abruzzo negli Stati Uniti d'America, dove è stato visto dopo il terremoto da circa 1 milione di persone. Momento proloquo del direttore del Mondo, sentite come è preparato sulla proposta turistica anche del museo. No, è importante dirlo naturalmente, però ci dica invece un po' anche uscendo dal museo cosa trovano intorno a sé. Certo, oggi alla città dell'Aquila, a che punto diciamo è da 0 a 100, se vogliamo fare, perché è un po' che non se ne parla, da 0 a 100 a che punto sta la ricostruzione? Allora bisogna fare una distinzione netta tra la periferia della città, che possiamo dire ricostruita oltre credo l'85%, forse anche di più, sì, e il centro storico. Nel centro storico il lavoro è partito veramente da 3 anni e negli ultimi 2 anni ha assunto un ritmo molto intenso. Tra qualche inchiesta, tra l'altro, che c'è stata anche. Sì, ci sono state delle inchieste. Comunque, per un po' di ora, scandali, diciamo, corruzione. La gestione è degli organi amministrativi ordinari, non ci sono commissariamenti. Sì, scusi, Congeluti. E se la periferia ha un 85% di ricostruito, il centro invece? Il centro, diciamo che va molto bene, gli assi principali, cioè gli assi viari principali, sono ormai tutti un cantiere e alcuni edifici sono già stati completamente recuperati e sono abitabili e abitati. Diciamo che c'è molto un problema di ripopolarlo il centro storico, che viene mano a mano ricostruito, perché nel corso degli anni molte persone hanno scelto altre soluzioni, sono andate molto banalmente altrove, oppure le famose new town. Esistono ancora le new town, quelle di Berlusconi? Le new town, sì, certo, esistono. Ci sono. Esistono. Ci vive tanta gente ancora? Una statistica esatta ovviamente non gliela so dare, ma ci vive senz'altro tanta gente ancora, sì, certo. Quelli che non hanno potuto recuperare le loro case. Che non hanno ancora recuperato le loro case, sì, altri sono in affitto altrove, queste sono le soluzioni oggi, diciamo, o l'alloggio provvisorio o l'abitazione in affitto. Comunque, insomma, voi ci credete in questo recupero anche del centro storico, bellissimo, dall'alto dell'Aquila? Se non ci credessimo non avremmo tenuto duro fino adesso e non faremmo il nostro lavoro con l'entusiasmo ancora, pur non essendo più giovanotti, ecco, siamo comunque andate a dare un'occhiata al Munda, al Museo Nazionale dell'Aquila, riaperto dopo 6 anni finalmente. Ci sono dei bei capolavori, un modo per così andare anche a dare una mano in quella città che insomma ne ha bisogno, e quindi auguri. La ringrazio, auguri anche a lei. Grazie. E va bene. Abbiamo ancora qualche minuto per sentire qualche bella notizia del 2015, ma continueremo anche domani, l'ultima puntata dell'anno, e quindi insomma ce lo portiamo dietro. Abbiamo Don Lorenzo che chiama da Grosseto, capito bene? Abbiamo un Don. Buonasera. Buonasera, Don. Dalla provincia. Sì. Intanto vi do una bella notizia, ecco, visto che lei ha detto che possiamo sentire, per me sono le relazioni, il recupero delle relazioni internazionali, diplomatiche e commerciali tra gli Stati Uniti, l'Iran e la Cuba. Ecco, che sono questo l'avevo messo anche io nell'elenco iniziale, è un fatto storico sicuramente, e può essere tranquillamente una cosa che contribuirà alla distensione. Grazie, donna, almeno partecipa rispetto a quei paesi lì, poi dopo da cosa nasce cosa. Bene. Per me la notizia più importante è questa. Lo mettiamo agli atti del gioco, sì, prego. Poi su cosa volete me? Immagino sull'ora di religione. Sì, io volevo parlare di quello. Sì. Cioè, intanto prima di tutto la materia è regolamentata dagli accordi, come lei ha detto, tra la Conferenza Episcopale Italiana e lo Stato, no? Quindi io su questo non voglio entrare nel merito, eccetera. Io voglio portare la mia posizione personale. Io sono stato insegnante di religione, mi hanno mandato per 3 anni, ho fatto 3 anni, nel 95, dal 95 al 98, 99, in una scuola media superiore, un ITIS, quindi una scuola media in istituto tecnico industriale. Io le posso garantire che non è che erano particolarmente interessati a questa materia, perché gli adolescenti di queste cose non sono molto interessati. Bisogna vedere anche come gli viene posto. Lei che bisogna vedere anche però. Sì, no, però perché dice così invece? Perché è vero, perché i ragazzi a quell'età, o la fanno come fanno storia, come fanno filosofia, come sì. fanno letteratura, e la devono fare per forza, perché devi prendere sei, che se però scusi Don, scusi Don, eccetera. Io penso questo, e allora, ma così non risponde al bisogno sì. poi, come abbiamo studiato storia e matematica, filosofia o letteratura, e quando avevamo 15, 16, 17 anni tante volte sembrava che non ci interessasse nulla, non sempre, ma tante volte sì, poi dopo magari crescendo abbiamo riscoperto, abbiamo ritrovato qualcosa ma dentro infatti, di noi, un seme. Infatti quelli che venivano al mio corso sì. dopo tanti anni hanno voluto, e poi lo facevano giusto perché così non sapevano fare altrimenti, hanno voluto che li sposassi io, quelli che hanno voluto poi sposarsi. Ma questo era un legame affettivo. Ma lei che cosa insegnava, Don Lorenzo? Lei insegnava storia delle religioni o religione? Insegnavo religione perché questo cioè, è il mandato è quello cosa. Ecco, il mandato è qui. Però voglio dire, però guardi che non è così entusiasmante come lo possiamo pensare noi questa cosa. Quale cosa? A livello delle scuole medie superiori, soprattutto in una certa... Non ho capito, scusi Don Lorenzo, non ho... Non nei licei, perché quelli sono innamorati della letteratura, della filosofia, Don Lorenzo, non andavano a fare un'altra cosa. Don Lorenzo, ecco. Mi ascolta un attimo. La domanda è, non ho capito, di che cosa i ragazzi non sono innamorati? Di quello che faceva lei, cioè di insegnare la religione cattolica? Del pensiero, della storia. Io cosa ma come fa a dirlo? Scusi, non erano, scusi, non erano interessati a quello forse che faceva lei, questa è la sua esperienza, no, ma non è che... Io dico cosa facevo, ed è esattamente quello che lei vorrebbe che si facesse. Ma non lo so, guardi, lei è un prete e insegnava ora di religione cattolica, non lo so se è quello che dicevo io. Non credo. A scuola non si va per dire le preghierine a Gesù Bambino e alla Madonnina, a scuola si va per conoscere. Io la prima cosa che ho detto, la scuola è laica, è una cosa della scuola e una cosa della parrocchia. Allora, sì, ma lei che cosa insegnava? L'ha detto prima, no? Che cosa insegnava? Ora di religione cattolica, quello insegnava. Esatto. Però dentro la materia lascia un grande margine, tant'è vero che io l'ho impostato in questo modo. Primo anno ho parlato del bisogno religioso, se c'era e come veniva soddisfatto. Le tre grandi religioni, l'ebraismo, il cristianesimo e l'islam. E poi il secondo anno tutte le varie modifiche, quindi i vari scismi, quindi la religione ortodossa. È questo che io intendo, Don Lorenzo, però poi dipende anche naturalmente come viene insegnato, il taglio che gli viene dato, la proposta che viene fatta. Lei è un prete, aveva una tunica, come si dice, un abito talare, per cui lei si presentava in un certo modo e suscitava un certo interesse, forse perché lei non era un insegnante, ma era semplicemente un prete. Non riprendo la telefonata perché voglio andare oltre. Valeria da Monza, buonasera. No, da Monza, in provincia vicino, cioè, no, io sono in provincia di Lecco, sono qui a Olbia e Molgora. Va bene, ecco, è in transito, diciamo, tra Monza e Lecco. Tra... No, vabbè, Valeria, non importa da dove chiama, cosa voleva dire? Sono nella Valle Brianza e basta. Benissimo, perfetto. Qual era l'argomento? Volevo intervenire prima per riguardo al riscaldamento e, sì. e a come risparmiare e a come inquinare meno, insomma. Ecco, ha qualche idea, qualche suggerimento? Ma io sì, ho qualche suggerimento perché i miei vicini di casa mi chiedono tutti come mai pago così poco di gas. Ah, questa allora, è una informazione importantissima, ce la racconti? Sì, infatti, io vivo nelle case popolari, sì. ho una caldaia di quella autonoma, sì. che controllo tutti gli anni, come a gas, per obbligo, ovviamente, sì. e che la tengo regolata con un termostato di quelli a ore. Ok, da un'impostazione oraria, quindi dice lo tengo acceso dalle alle. No, lo tengo acceso oppure lo tengo spento, cioè esco, lo metto a 18 gradi, 17, anche meno. Insomma. Vabbè, e riesce a spendere poco, il suo segreto qual è? Non ho capito qual è il segreto. Il segreto è appunto non lasciare acceso continuamente anche quando non serve il riscaldamento, perché è assurdo, quindi se esco vado a vedermi il mio termostato e me lo regolo secondo le ore in cui rientro. Alla mattina mi piace alzarmi col caldo e non col freddo, quindi un'ora prima di alzarmi lo accendo. Va bene Valeria, benissimo, cioè, è una ricetta non originalissima ma ci sta. Flavia da Padova, chiudiamo con questa telefonata, buonasera. Arrivo subito, mi scusi che tolgo il via voce che l'avevo messo, lo tolgo immediatamente. Sì, benissimo. Ok, mi scusi. Non abbiamo moltissimo tempo, prego Flavia. Eccomi qua, allora io sono insegnante di religione e a differenza di quello che diceva il Don, sì. i ragazzi sono affascinati e insegno storia delle religioni. Sì. Ho studiato tre religioni, ho letto il Corano, ho letto molti testi sacri anche delle religioni orientali e le assicuro che in classe c'è un silenzio incredibile quando io parlo. Ne sono convinto, ne sono convinto. Lei però è un insegnante sempre di quelle selezionate dalla Curia. Curia così. Sì, dalla Curia, anche se ho i miei 5 anni di teologia e una laurea anche in scienze dell'educazione. Quindi la sua impostazione da questo punto di vista è diversa, è un'impostazione diciamo interreligiosa. Filosofica. Io sono arrivata a Dio attraverso Nietzsche. Poi dopo Dio mi ha affascinato quanto la filosofia, se non di più addirittura. Dobbiamo chiudere, Flavia, e mi dispiace molto, però magari domani ci risentiamo perché la sua testimonianza mi interessa moltissimo. Grazie a tutti, Paolo Corleone in regia, Emanuele Brignoli e Miriam Lucchetti in redazione. Da Alessio Maurizio un grande abbraccio, a domani 18:30-21:00.